Va bene, e questo sempre nel 3009? No, questo è il barattino di Stefano. Sto usando uno, come si dice, va a fare uno, un LCI 2950. Aspetta un attimo, già c'è il GP più qui. Ranger. Io, ok, vai Leonci. Vabbè, un'altra cosa, un'altra cosa che hai visto, vai, che non ti ha fatto, che dicevo la verità stasera. Vabbè, vai. Oh, voi, sbagliare umano, hai capito? Ho confuso la legge, ho confuso persona, hai capito? Non confondo, Giuseppe, non confondo. Ciao, che vai? Ciao, Giuseppe. Vabbè, tutto bene? Dici, ti lamenti, mi stavo preparando per andare a cena e ti ho sentito. Sono stato salutati a... sono molto bassi e la solido a te che sta comprimendo. Controllati la colonnina, controllati tutto, perché sicuramente è lì il problema, eh? Io mi sto ascoltando e sono molto chiaro. Antonio, ci sei? Non c'è neanche Antonello, vabbè, vai, a futtidini. Non è un problema. Giuseppe, rimetto il microfono e vi saluto tutti, alla prossima, ciao ciao. Ok, buona carica, molto dai, al limite riprendilo, poi se lasciamo qua. Ciao, ci sentiamo alle prossime, dai. Ok, alla prossima, ciao ciao. Ciao Claudio, no, ti sto ascoltando anche in cuffia, no, non è problema di cosa, boh, non lo so, ti hai preso che è una cosa molto impercettibile, no? Stiamo parlando di cose, di disturbo. Ti sento leggermente, ma poco a poco, io sono convinto, se tocchi un peluzzino il mic, probabilmente scompare tutto. Ok, ok, Roberto, è questa, non devo lavorare qua, capito? Però non lavorerò più neanche perché... Devo pulire anche la mappa, la devo mettere a multibanda, quindi saranno gli ultimi tocchi. No, avevo già fatto la banda laterale, ma a te ripeto, io mi ascolto molto bene, sicuramente la vicinanza, non lo so, i fatti sono praticamente chiusi, perché lo tengo a 10 watt che uso l'amplificatore in 28, e quindi lo tengo a 10 watt, perciò è a 10 watt senza nessun problema. Vabbè, vi saluto di nuovo, ciao a tutti, qua ritengo per me, alle prossime, vai. Sì, ciao, qua ci sentiamo. Vediamo se c'è Antonello Pompugno, ma intanto... Ci sono andati a cenare, Robert. Probabilmente, dai. Tu già fatto carica? Sì, già mangiato, mi rimango un pochettino adesso, poi proseguo, mi guardo un po' di televisione, non sono un po' stanco oggi, dai. E allora secondo me ho cenato presto io, dunque adesso sono qua alla radio un po' e poi mi sto guardando la televisione, no? Ma c'ho il volume basso. Vediamo un po' se c'è qualcuno sul 10 che vuole entrare per far compagnia. Avanti, sul 10 che vuole entrare. Buonasera, sono passato della tua via, mi sono un attimino, ti stai mandando qua la radio. Ciao Roberto, ciao. Ciao Leoncino, Giuseppe, Luca da questa parte, da Papatango. Ciao Luca, ciao, ben sentito. Adesso sei fermo, diciamo. Sì, adesso sono io su Piazza. Avanti Leoncino. Ehi, ciao Gianluca, è bene. Yeah, ciao. Come sta uscendo con questo provollo, questo... di questo barettinetto, per un po' che l'avevo messo da parte e voglio vedere un pochettino se ancora funzionava tutto lì. E manda Roberto che è più lontano di me, dai lo giuro per il controllo come sta arrivando Gianluca Protorace. Prova Gianluca. E vedi un po' come per fare la cortesia, come mi dirai le tue coordinate, dove ti trovi, per sta poco la zona di cui stai parlando. Per me la questa parte è la Protorace. Se sei la Porto Torres il tuo segnale è quasi 9, la radio 5 è bella chiara. Io le mie coordinate sono zona stadio Vanni Sanna, dai. Sì, ok, va benissimo allora. Sono soddisfatto, dai, visto che sto utilizzando un piccolo baracchinetto così, con un brochure, un bike da tavolo brochure. No, considerando la distanza la radio è bella forte, presente, niente da eccepire. Mi puoi dare anche a me un controllo dalle tue parti o c'è problema? No, ti posso dare tranquillamente un controllo anche se è relativo, visto che questa radio è stanziata dal letto, praticamente c'è quasi a fondo scala, manca solamente la gestione dell'ultimo letto. Dovrei essere intorno ai 9-10. Ah, va bene. Ok, un'altra domanda, che antenna utilizzi? Che antenna? Questa dovrebbe essere, se non mi ricordo, 8001 della Sidio, non so se ce ne presento, sono radiali. Se mi ricordo bene che si chiama così, Eia. E in che zona c'è di Porto Torres? Sono vicino via delle Regine, caserma dei Carabinieri. Ho capito, ho capito. Ok, va benissimo, sta andando più che bene. Adesso ti do un controllo più con l'altra antenna. là. Vabbè, voglio vedere come mi sta arrivando, quindi ti dico un attimino, presta poco, perché la antenna che ho, lo stesso è simile a questa che sto modulando, pochi metri, diciamo, distanti uno dall'altro, però quello non vuol dire, perché molte volte una rispetto all'altra, uno spiraglio, uno spiraglio diverso. Fammi un passaggio, vabbè, vedo prossimamente che potrebbe stare arrivando nell'altra radio. Allora, 1, 2, 3, prova, canale 10, 27.075, avanti per il controllo. Effettivamente questo è stato una sbaglia. 9.5, 9.10 si è modulato. Vai benissimo. La radio va bene, a livello microfonico va bene. Perfetto, c'è l'unica, c'è la pulita. Adesso faccio un passaggio con un'altra radio, e dopo magari c'è cosa con un'altra radio ancora, vediamo un pochettino come sono i segnali e le modulazioni. Un attimo che commuto qui le giro il commutatore. Scusa un attimo, Leoncino, così facciamo le valutazioni. Ma ci sono problemi, vabbè, fai, no, adesso qua in ascolto, io rimango in ascolto, dai. Tanto ne approfitto ad andare così a capicolino, dai. Via. Scusa Leoncino, se un attimo, visto che Roberto si trova in quella zona, non mi ricordavo il segnale come stava arrivando, lo giuro, dai. Ok. Vabbè, questa è un'altra radio, un altro mic, vedi un poco come va. Allora, si è aumentato di segnale di 5 punti, 9 più 5 qua. Il segnale prima era quasi 9 e il livello microfonico è migliorato, anche più forte, leggermente anzi più forte. E la modulazione fammela sentire di nuovo e ti dico cosa manca e cosa c'è in più. Guarda, allora io posso anche aumentare. Se vuoi, io adesso piano piano, gradatamente, posso, ecco, fare così, posso aumentare un altro poco. Allora, così al massimo, non so come sta procedendo, se sta mantenendo bene la modulazione, se non strappa o che cosa. Si è leggermente alto, dovreste abbassare un pochettino, la modulazione è abbastanza chiara, diciamo abbastanza chiara, leggermente carenza di tonalità acute, però va bene, però dovresti diminuire perché come sollevi ti attenui le tonalità acute, non so cosa stai utilizzando di radio, se me lo vuoi dire. Sì, questo è un 757 con MD200. No, stai spingendo parecchio, abbassa un pochettino di modulazione, cioè di livello microfonico, per questo va bene. Ok, allora posso utilizzare e metterla a metà, guarda, ultimamente lo stavo lasciando sempre così, non c'erano problemi, io ho voluto aumentare per vedere un po' cosa faceva, diciamo, generalmente lo tengo in questa posizione. Faccio così. Ciao, confermo, la stazione è modulazione perfetta, il segnale, continuando il segnale sta andando sempre qua vicino a me, c'è un segnale ottimo e una modulazione ottima, lascia stare perché c'è gente del Porto Toro che se lo sogna questa radio con segnali più forti del tuo. Ok, devo un attimino abbassare perché c'ho l'antenna della TV in questa antenna che ti è stata sotto, no? Leggermente sotto, e mi disturba solo l'ultima, la televisioncina che c'ho su, diciamo. Ok, ciao Claudio, comunque adesso faccio un'altra prova, vabbè. Quando vuoi, sono qui. Ecco, riabbasso, ecco, abbasso il segnale, un attimino, ho abbassato la commuto un secondo, Ho la radio che c'ha Giampaolo. Sì, sì, però considerando che Giampaolo c'ha lo stesso segnale di lui, là. Lui sta uscendo una bomba di radio, e sta utilizzando, cosa me un 757, così. Non c'è da niente la radio, questa è una modulazione, ma già però c'è una modulazione molto più, come si dice, un po' più masticata rispetto a quella di Gianluca, capito? Quindi è per quello, ma 140 c'è già però quello che io uso normalmente qua a casa, capito? Non sto criticando, però considerando il segnale, io lui si portava presso un po' di disturbi, di flusci, lui, mentre Gianluca c'ha un segnale quasi simile, però c'è pulito, nessuna parola più favorevole verso me, non lo so. Gianluca modula non tanto, allora non c'è casino, in un posto suo tutto personale come c'ho io, mentre Gianluca c'ha la radio dove ci sono 3-4 persone, con 4 computer accesi, televisione, bella radio. Probabilmente così, non lo so. Comunque escono bene tutti, non c'è problema. Vabbè, io adesso ancora, adesso vado a mangiare. Gianlu, riprendi. Ma sempre mi chiamava a fare adesso il filo di GRC. Non era mai il GRC, non era mai. Deve smontarlo, pulire bene i contatti, o bisalvarlo e risalvarlo con l'MC60. Sempre lui con l'MC60 o il 140, non è uguale alla modulazione di Giampero. Ehi, va bene, ok, dai. C'è un attimino un pochettino di... Non forzista questo casino che c'è sotto, ogni tanto non fa uscire, vediamo un po' se è tenuto tutto quanto. Su. Ok dai, questo è 140 con l'MC60. No, bella modulazione, va benissimo. L'altro è un po' più forte come Santiago, 5 punti guadagni con l'altro. Vabbè, ma questa cosa sta anche aumentare un pochettino, Vediamo un po', aspetta un secondo. Scusa Roberto, mi accorgo che mi metto le cuffie se mi ascolta, perché voglio aumentare il potenziometro, però non troppo, perché se non lo so vai in distorsione, Sciacqua. Siamo andato qua. Sullo sguardo, quello che c'è dietro, quel trimmerino, commutatori vadano a proteggersi entrambi. Se uno, per dire, è troppo alto e l'altro è troppo basso, non riuscirò mai a regolare la modulazione, cioè la chiarezza non c'è. Se tu noteggi al tavolo, che è quello che ho fatto io, praticamente era il mio, quando lui parla, la modulazione, i picchi di modulazione, perché se tu vai a trovare la radio, il picco di modulazione sulla scala dell'LC rimane costante da 1 a 10, da 1 a 10, cioè non varia, non varia da 1 a 4, da 1 a 5, da 1 a 6, no, va da 1 a 10, da 1 a 10, perché è regolato proprio all'interno dell'LC, capito? Sì, sì, sì, ok. Grazie, come dice Claudio. Ok, dai, ho cambiato un'altra radietta un attimino, così, però sto utilizzando l'altra antenna adesso, Roberto, anche tu, Claudio, sto utilizzando quell'altra, quella che ho montato ultimamente. Ma va benissimo, Gianluca, va bene anche con 757, va bene con tutto, sì, finalmente è pronto. Va bene con tutto, Gianluca, è che dipende sempre dalla modulazione, capito, tutto lì. Va bene, dai, allora io vi saluto, va bene, microfono a parte, c'è anche Giuseppe, ciao Gianluca e quelli che sono ascolti, io faccio in cuore a 10 e sentiamo le prossime, ciao a tutti. E io allora ci sentiamo, là. Ok, e di nuovo Gianluca riprende il mic. Dice che sono modulati a vicenda, avanti di nuovo Gianluca per Capri. No, siamo solo modulati, ok. Di nuovo, ripeto, allora, ciao Claudio, buon carico, dai, ci sentiamo casomai prossimamente, se coincide o domani concluderà. Perché se volevo, diciamo che ero qua, io comunque, un po' di TV, un po' di radio, prima di conciliare il sonno. Avanti nuovo per te, Roberto. Mi appena ha provato diverso di cosa. Stranamente mi aspettavo di meglio, anche se era ottima la radio, dal ciao Capri, comunque buonasera, ben risentito. Mi aspettavo nel confronto tra cos'era, 757 mi ha detto, con un M200 mi aspettavo come vincitore il 60, invece stranamente è andato meglio l'altro. Cosa è meglio, l'Oiaesu? Sì, da parte mia sì, era, parliamo come qualità di emissione, come nitidezza di voce, e magari quell'altro spinge di più, niente da dire, il 60 c'ha un tipo di modulazione a combattimento, però come fedeltà sinceramente mi piaceva più l'altro. Poi guardandoti io qua, c'ho delle cose che mi possono dare delle indicazioni abbastanza attendibili, con l'esatto rispetto ho visto che avevi un pochettino di modulazione un pochettino più lineare rispetto al 60, ti mancavano un po' di acuti. Ho capito, e invece questa antenna qua come sta funzionando, Robè, come segnale questa antenna qua? Santiago 8 qua sei sceso. È leggermente più bassa questa qua, vero? Vabbè, sto utilizzando anche un'altra radio, adesso non sarei lì a cambiare la radio, perché questi discorsi dovresti farli con usare una radio, provare due antenne, con la stessa potenza, insomma, vedere un po' come arriva a Sassari, come arriva una e l'altra. No, mi colpisce, nonostante tutto, che non hai un 9 pieno di Santiago, c'è un Santiago più basso di 9, però la radio è sempre 5, è sempre bella e chiara, al contrario di qualche donato che ha segnali più forti, però sono emissioni brutte, non mi piacciono, non voglio criticare nessuno, non mi piace criticare, però ti sto facendo delle considerazioni, è una bella radio, considerando il livello di Santiago. Sì, hai messo la radio, questa qui comunque è buona, vero? La parte mia è buona, più che buona. Poi vediamo un po', chiediamo un controllo a più lunga distanza a Muros dall'amico Gianni, cosa ti può dire se ti ascolta naturalmente. Avanti Gianni Capri 2 per l'amico Gianluca. Sì, lo ascolto a Gianluca, però diciamo la radio c'è, se 9.5 qui, ripeto, è Santiago 4, però hai capito, non so se c'è un'antenna che non è favorevole, però io quando stavo cenando sentivo un altro riportatore che arrivava forte, chi era quello, Roberto? Il portatore c'era Alessandro, che è quello che arrivava più forte di quelli che ha ascoltato io, e poi c'era Giampaolo Silvestro. Vabbè, poi se mi ricordo io non c'erano altri. Giampaolo Silvestro, no, quando c'era con Rosario c'ero anche io. Forse Silvestro, da facendo tutta la portatore si arriva, perché gli ha toccato la sensibilità, era assolto questo apparecchio. Adesso è una bomba, Roberto, proprio bello. Gianluca, non lo so se questione di antenna oppure se sono io che non sono favorevole alla tua posizione. Non so, io come ti arrivo lì a Portatore, se è interrogativo? Allora, ciao Gianni, capo 2, buona serata. No, anch'io ti ricevo bassissimo con quella antenna lì. Sono evidente che la posizione della mia antenna non è favorevole, viceversa. Infatti si sentivo basso, basso, basso. Con questo sei in Santiago 7-8. Allora, con questo tu sei quasi 8, sì. Non so cos'è, che apparecchio è attaccato. Questo lo sto parlando con 140. Già infatti, ho attaccato qualche pantofola sotto e niente. Comunque adesso ti ascolto egregiamente, Radio 5 Perfetta. Pronto il break e buonasera. Buonasera a tutti, di nuovo, nuovamente Gianni più lungo. E tu con che apparecchio stai scendo già? Io? Innoviti già, perché gli altri ce li devo buttare sopra, che stavo mi accanto un pezzo già dell'apparecchio, che la condessa se ne si andava a rompere il mercato, non c'era nulla però, c'era il barattolo con la pernice, ieri mi sono messo piano piano, e c'è loro le scatole, le devo mettere sul banco di nuovo. Non innoviti ciò già, perché è anche facile attaccarlo, e l'altro c'è un sacco di roba attaccata, poi piano piano adesso mi sotto lo strato lo passo nel banco del pulito e li rimetto a posto. Ok già, gli ho aumentato la sensibilità appena, ti do 9 più 10 qui già. K-K, sta uscendo bene con quelle nuite. Ma quello di base? Sì, ne ho un altro già preciso, ne ho un altro molto nuovo, questo me l'ha regalato Angelo, il mio amico di Porto Torres. Però era sordo già, capito? Manca l'altro voi di toccato, la capricciò. E mi sono messo stasera, ero così, piano piano stavamo durando Giulio con Roberto, ho iniziato e ti dicono che appena appena la... diciamo il segnale di uscita gli ho aumentato le fesserie, ma sicuramente allineato già, però è una bomba e mi ascolto al 100%, riprendi o beh. Ciao Gianni, ben risentito anche a te. Ok, facciamo vedere se c'è, ascoltiamo un attimino se c'è Leoncino, perché era poco fa in stand by. Avanti Leoncino, se ci sembra un colpo. Yeah, sono sempre qua in ascolto, dai. Risaluto tutti quanti, nuovamente componenti del canale 10, buonasera a tutti quanti. Dai, riprendo e faccio saluti a Gianni da quel room. Ciao Leoncino, che nuovo a te. Ciao Leoncino, ben sentito, un pugno a capo. Un pugno a capo, è bene dato. Sì, buonasera, scusa se non ti ho citato, perché sono solito magari nell'attimo che non so ti ho citato. Sentivo anche lui sotto che sta correndo, però non sapevo che c'eri anche tu, Luigi. Ok, perfetto, il segnale com'è già lì da te con questo apparato? 095 la mia città. E dammi andrà bene, con gli ovari andrà bene. Riprendi Robe, no adesso Gianluca l'ascolto bene, con quell'apparato vai alla grande Gianluca, riprendi Robe. Cos'è questo, l'inuit? Io l'inuit ce l'ho Robe, poi già piatto di altri, sono un po' scappo di qui in mezzo ai piedi, io c'ero la scala con la tinta, forse che mi della rete scura. No, un po' di condensa, però capita, perché la stufa scalda proprio, poi la notte qui come scende... freddo si forma questa condensa di forma, anche le goccioline è un sacco che va alla coppia, non lo avevo mai visto, e rimangono europei, non è caro, non sono segnata. Ok, riprendi. Quella bottola deve essere già. Cosa? Metto quella bottola per salire sul tetto che hai in camera da letto del vestito. Oh già, è la stufa perché guarda, ho comprato legna veramente bella, secca, cioè come io vado a salire al piano di sopra, che faccio le scale, c'è guarda un calore, c'è più calore lì nella rampa della scala che dove c'è la stufa, andare qui poi forma della condensa e niente, ti posso dire che la mattina già io ho fatto l'ormai a mettere quelle cose in alluminio, quelle finestre, beh la mattina già mia moglie deve stare con lo straccio pulendo sono bagnate per essere bagnate le finestre, appena mi entrano due lire quelle finestre che le hanno ripugliato. Riprendi le uscite, rimetto il cambio, vai. Rimango qua, rimango in ascolto, là non ci sono problemi, parlate tranquilli, voi non ci sono problemi, dai, rimetto il microfono a Roberto, avanti Roberto. No, l'umidità è cosa brutta, bisogna stare attenti, oltre che fa male alle persone, fa male agli apparati, perché ci sono particolari metallici all'interno di ogni apparato, per cui bisogna starci ben attento, se no ti fai dei danni irrimediabili per certe volte. Dai, ho contenti, va bene, non li apparassi molto, però come si chiama, che mi dà fastidio anche la mattina, quando mi alzo che vedo la finestra così, ogni mattina, la sa che fida tue, io vi parlo molto in sardo, anche il portoncino, adesso ne ho visto uno a bricco di quelli blindati, è la prima cosa che mi ricordo, anche il portoncino, è la stessa cosa, e dopo il mito, questo non è stato, questo è stato, non so con che materiale, bagnato, vabbè, sembra che ti hai preso una toppa la mattina che ti è risultata dentro, è roba che fa male anche alla salute, perché ne sono proprio convinto. Gianluca, riprendi. Ok. Comunque con questa radio già mi sentite quasi tutti bene, va benissimo, dopo tocco mi alterno con l'altra, parlo con l'altra che così almeno non do fastidio su ai miei, che l'altra parte appartamento di su, diciamo, tutto lì. E cosa volevo dire? All'uncino, fatta la quella cosa, o Giuseppe? Ah, l'ho fatta, Gianluca, l'ho fatta, Adesso lunedì glielo consegniamo e sperando che vada positivo. Speriamo in bene, almeno quello. Qualche cosettina è sempre meglio un pugnino, uccide un uccide. Vero, davvero, davvero. Speriamo, Gianluca, che Dio ce la mandi buona. Avanti, Gianni, doppio blu. E quell'altra cosa là, Giuseppe, è fatta lo stesso, quella che mi stavi chiedendo a me. Quella lunedì, dopo prima vado a portare quel foglio dall'assistente sociale e poi andiamo lì, con la donna là, con il bambino. Va bene, speriamo bene anche per quello. Vabbè, già, io lo vuoi fare. E così lì puoi andare quando vuoi. Scappa. Andare quando vuoi a trovare le cose, non ti dicono niente. Poi glielo dico a Maurizio, devi stare attento e cose. Scappa. Ok, là, ho cambiato cielo al cavallo, vediamo un pochettino come va questa radio. Se mi ascolti sempre bene, Gianni Capidue, così mi ascolti? Ti ascolto bene, un po' il microfono sembra troppo metallico, Gianluca, comunque ti ascolto bene, a me mi va benissimo, non so gli altri se la pensano allo stesso modo di come la penso io, proviamo a rilanciarti a Roberto, che Roberto è un intenditore, corregge anche a me quei microfoni, ci sa fare, Robè, come lo senti tu? Ma Gianlu un attimino l'ho rifatto. Ha ragione anche quello, mi sto ascoltando anche con le cuffie, ecco. Ho abbassato un pochettino il volume del mic, ecco. Questa posizione, vediamo un po' come va. Ah, ti spiego tutto. Allora, la radio è chiara, capisco quello che dici, però è neutra, nel senso c'è solo tonalità medio-basse e basse, assolutamente carente di tonalità, medio-acute ed acute, per cui un po' barattoloso, parole povere, come ha detto Cosio. Il livello microfonico non l'ho visto, fammi un altro passaggio e ti dico il livello microfonico. Ecco, il livello microfonico, adesso io ho fatto il multigame, vedo poi il volume del microfono, ecco. Leggermente posso anche aumentare, posso metterlo leggermente così, ho notato già che ha aumentato abbastanza perché mi sto soltanto con le cuffie, mi direi tu un pochino com'è. Allora, il livello microfonico microfonico è ancora basso, non tanto per una cosa, come sollevato il livello microfonico ti cambia la risposta della modulazione, nel senso ti ha sollevato un pochettino gli acuti, per cui non so cosa stai utilizzando, se il problema è dovuto all'amplificatore, al circuito di preamplificazione del microfono o dell'apparato, perché hai modificato l'emissione. Probabilmente c'è qualcosa, non lo so, dimmelo tu cosa stai utilizzando e poi magari forse ti posso dire qualcosa da parte mia. Niente, questo qui è un manche, così è troppo alto, io però posso abbassare leggermente anche il... Allora, posso abbassare leggermente il microfono, ok, 1, 2, 3, prova, ecco. Sei sempre basso di modulazione, ho notato che hai un innesco, hai provato un innesco, però la modulazione è bassa rispetto a tutte le altre che hai provato prima. Se mi vuoi dire che microfono sta utilizzando e che apparato. Sono adesso, ci siamo sovramodulati, ho detto è uno Shure con un Ranger. No, poco fa lo Shure quando ti ho ascoltato la prima volta era una meraviglia, adesso no. Purtroppo probabilmente non si addice a quell'apparato lì. Allora deve essere che vediamo un pochettino, ecco, così com'è Roberto, vedi un poco, sempre cupo e basso il livello, ma è un microfono normale, non è amplificato. Sì, è amplificato, vedi, guarda a vedere, però adesso sto un attimino innescando. Vado in cuffie e se ne rientro nel tarugoso, mi sto ascoltando con un ricevitore. No, diciamo la voce la capisco, è chiara, però non va bene, non migliora niente, come sollevi il livello rimane quasi invariato e c'è un innesco, probabilmente anche problemi di impedenza ci sono tra il mic e l'apparato, non lo so, prova un altro mic, magari riesci a renderlo meglio. L'ho provato, adesso non mi ricordo, il Farmer. Il Farmer è leggermente più metallico, la fa la voce più metallica. Non riesco a capire come mai ti sei abbassato così tanto di livello microfonico, poco fa eri molto ma molto più alto. Non lo so, Roberto. Devo controllare il livello della batteria. Verifica, quello magari non sta amplificando come dovrebbe, però la cosa strana, come alzi cambia anche la risposta in frequenza, diciamo, dell'uscita della modulazione. Ok, vediamo un po', facciamo rigirare i microfoni, ripartiamo da Gianni doppio room e poi tutti gli altri. Avanti Gianni. Doppio room e son passo, leoncino avanti. Prima era molto più forte, si sentiva, ma arrivava a quasi 9-10 a picchi positivi, la radio era 5, adesso si è passata tra 6 e 7. Sei a capo di Roger. Leo, ci stavo utilizzando un'altra radio, ok, adesso mi dirai un pochettino come se siamo tornati alla normalità. Adesso sì, adesso mi arrivi, adesso non è proprio 9-10 ma 9-9 qualcosa, dai. E la radio è super 5. Sono tutto gonfio. E stasera? Aspetta, fa una foto, Gianni capi due, prova a parlare tu un attimo per curiosità. Io? E prova a parlare. Ok, cosa vi devo dire, cosa voglio raccontarvi, qualche barzelletta, cosa vi devo dire, come arrivo di radio, di segnale, va bene, Roberto? Sì. No, il segnale tuo, vabbè, già forza, già si sa, ma sto guardando a livello microfonico, no, sei più alto tu rispetto a lui, infatti non mi sbagliavo, anche a orecchie oltre che strumentalmente. Che io sto usando in questo momento l'MP+5. L'MP+5 l'ho collegato qui senza manco testarlo, si adattava benissimo a questo apparato, però anche con il microfono suo originale, vabbè, con quello da palmo, rinuiti, c'è bene, no, così giusto, ma adesso a giro li provo tutti in questi giorni, capite? Poi, no, voglio anche di tutti perché immacolati devono essere. Ma di là di là, e te che ha fatto che su un'acqua su tu, caro mio, riprendi già, ci sei. Giuseppe! Avanti! E io come ti arrivo lì, già, dove sei tu, dammi segnale e con la radio com'è? 9+5 e radio 5, ho mandato la sensibilità stasera a questo giocattolino, no, perché l'avevo sentito all'epoca che ne avevano fatto questa lavoretta, appena appena si toccato, stavo a lavorare, ho detto con Giulio me lo, e poi mi ho provato in un canale la trasmissione e ho aumentato di appena appena. Come sono lì Giuseppe anche io? Qua mi sta arrivando la radio, Radio Super 5. Sì, c'è qualcuno che ha pigiato avanti chi piglia il mic. Scappa, sono rientrato, dai. Sto comprando un altro apparecchio, volevo sapere dove sto uscendo, cambio. Già, ma cosa ho un apparecchio? Ma niente, allora avete fatto gli esami al RAI, capito, in aeronautica, ho fatto un altro apparecchio, lunga mi sa niente. A che bianche dei usci? Sì, non me lo dire cos'è. Capito, facciamo con l'acquisto un giorno, così indoviniamo, ormai mi risapete. Ok, no, alla grande, già no, arrivi a bomba, arrivati adesso. Ok, riprendi Gianlu. Sì, già. No, va benissimo già, non so. Ciucu, ciu. Adesso devo passare, sempre, non ho sollevato troppo questa televisioncina. Ti sento sempre bene già, non c'è problema. Questo è uno shooter qui, Gianlu. Ma col Galaxy? K. Vedi, questo mi piace molto di più di microfono di quell'altro che usi sempre. Ho visto? E a me mi hanno detto che non andava bene. Robert, cosa ne dici di questo microfono? Allora, diciamo, è un microfono a combattimento, per i miei gusti dovresti abbassare appena appena un peluzzino l'amplificazione, perché sei molto presente come tonalità, diciamo, medie, un pochettino carente di bassi. Però c'hai i medici e gli hai. E non sono le modulazioni che piacciono a me, però già va bene Gianni, ti ho sentito meglio in altre situazioni comunque. Ma roba te non le piace. È molto gentile dicendo, ma non li piace. Invece KP2, tu cosa ne dici? Come arriva la modulazione? È forte? Ok, la modulazione è già, è a bomba, perfettissima. Hai capito? E un giorno o l'altro me lo dai a me. Non adesso però già. Perché c'è questo redditometro, si controllano tutto. Quindi, però tienilo conto che mi potrebbe interessare. Cappa. Ecco il gas, va bene, dai, ci ho messo l'attacco del gas adesso e lo facciamo andare un po' là stasera. Gianlu? Dai, io ancora non vedo. Stare a controllare, ma non è tranquillo, parcheggiato il Galaxy, ma non lo lasceremo lì. Ok, tu passerà bene, hai capito? A me piace anche averli senza usarli. Ok, no, ma alla grande già, alla grande, naturalmente io sono più distante di Roberto, dai, a Roberto anche non sa funerali, però qui arriva una telefonata. Ok, signor Contonio, KP2, le rimette il cambio con la buonasera, avanti. Sì, buonasera. Ma non lo sapevo, lo stavo uscendo io, ma... Siete tutti in roba, quanto sembra. Allora, vediamo un po', come sto uscendo? Fondo scala, sì, perché le ho aumentato la sensibilità appena. Fondo scala, Antonio, a bomba. Gianlu, scusate un attimino. Dimmi, Robert. Allora, memorizza questa modulazione, questo è un microfono, poi ti faccio ascoltare l'altro e poi chiediamo anche conferma agli altri amici qua in frequenza. Guarda questa modulazione, canale 10-27-075 la frequenza. Perfetto. Ciao Pompolio, ben entrato. Sì, saluto anche a te. Sono me che non uso questa apparecchio, la verità si ricca. E non so più come stavo uscendo, perché altro. Allora, siccome sono un che non uso, non mi ricordo manco più come si può funzionare la situazione, aspetta. Mi sembra poco amplificata questa cosa. Non ho amplificato nessuno, la verità. Aspettate, dai, che non abbiamo altro tempo di memorizzare. Allora, Gianlu, questa è un'altra modulazione. Cosa dici? Che differenza hai notato da quella di prima a questa? Allora, l'altra mi sembra leggermente anche più forte di segnale, la radio è molto più chiara. A me, personalmente, il primo passaggio è è migliore di questo qua, per i miei gusti, soprattutto come radio, come chiarezza, molto superiore. La prima rispetto a questa, cioè questa è inferiore a quella che hai ascoltato prima. Aspettami, te la rifaccio sentire immediatamente, se lasciano un attimino di bianco, tanto un secondo. Rifammi i passaggi? Questa è la prima che hai ascoltato, 1, 2, 3, prova radio, la frequenza è il canale 10, 27, 0, 75. Ti rifaccio immediatamente l'altra, un attimino di bianco, scusate, così fa i confronti. E questa è l'altra, 1, 2, 3, prova radio, canale 10, 27, 0, 7, 5. Cosa hai notato di differenza? No, questa qua mi sembra migliore, adesso quest'ultimo passaggio più chiara. Infatti, qualcuno ha detto questo. Adesso faccio un confronto con Gianni doppio rumo e poi vediamo di capire. Gianni, questa ti piace o era meglio la prima? Stai fischiando. Se parlate uno sopra l'altro non si capisce niente. Cos'hai detto già? Sta fischiando lui, no? Che ha parlato uno sopra l'altro. Stava pescando alla fine. Allora, questo Gianni doppio rumo, questo è un passaggio, una modulazione canale 10, 27, 075, memorizza la radio. E questa è l'altra, 27, 10, 27, 075, canale 10. Dimmi un po'. Ah, sono tutte due belle, vabbè, cambiano di poco, la seconda a me mi sembra migliore. Questa qui dici? Sì, la seconda è più reale. La seconda è più reale a una voce, io non ti conosco di persona, capito? Però mi sembra più reale e più vicino alla tua voce. Sono tutte due buone, questa è leggermente più reale. A livello di intensità microfonica, questa è più forte o più bassa dell'altra? Questa sembra più reale, hai ragione Luca. No, ho parlato sopra, ho detto a livello di intensità microfonica, non parliamo solo di qualità, chi è più forte, questa o l'altra? L'altra c'è più acuta. Beh, allora tenete presente, questo è un 60, quello che stavo utilizzando prima è un AV908, un Adonis di microfono, posso intervenire sulle equalizzazioni, posso fare quello che voglio. Quindi, diciamo, ho fatto una regolazione così più o meno a orecchio, dovrei apprezzarmi un pochettino di più. Qualcuno diceva che era meglio l'Adonis, che non c'era confronto, voi mi state dicendo un'altra opinione di te, che sono più o meno simili. Va bene, dai, va bene lo stesso, è questione di gusti, l'abbiamo dimostrato, molte volte a uno piace più un microfono, come ho detto prima Gianni, a me mi piace più la modulazione che ho utilizzato l'altro giorno che quella di oggi. Poi i gusti sono gusti, poi quando uno conosce la voce in realtà riesce a identificare, ad apprezzare meglio la fedeltà, diciamo, del microfono. Questa più potenza, però questo pompa di più. Oh vabbè, l'altro tiene presente al minimo il microfono, posso fare quello che voglio perché c'ha tante possibilità di regolazione. Va bene, dai, ogni tanto li faccio girare tutti e due e vediamo un pochettino. Adesso chiediamo anche un parere a Gianni Capri 2, che lui è uno di quelli più lontani. Avanti Capri. Lascialo perdere. Lascialo perdere Capri 2, che è un maniaco quello. Antonello. Dimmi. Antonello Diusi, buonasera. Ah, è vero, certo, non vi usi, me l'avevo detto. Ciao Antonio, saluto. Fallo schiacciare. Antonello, un po' che dopo me lo dai tu il rapporto. Ok, ciao Antonello Diusi, no, volevo chiedere un parere a Capri, che era un po' lontano, c'è avanti Capri, dimmi qualcosa. Sì, per me, diciamo, va benissimo, hai capito, ti dicevo sempre bene, orecchiabile, non distorto, l'importante è quello. Poi, capito, ognuno ha la sua differenza, ma di poco, hai capito, non so, l'importante è che non siano messi, hai capito, e neanche, diciamo, con una modulazione che sia nel senso che uno si deve solo stare a parlare, capito? Si deve essere lineare il microfono, Roberto. Ma tra l'altro a te quale ti piace la R2, 60 o la Dunis? Un po' non c'è più. Facciamo riprendere Antonello da Barracuda, da Ossi, se non sbaglio, così, o da Itili. Ah, però io sempre stavo spostando a lui. Antonello, come sta uscendo? Buonasera invece di te a tutti. No, perché ci sono due Antonelli. Anch'io faccio Antonello, aspetta. Comunque buonasera a tutti. No, ma stai uscendo bene. Compone un pochettino così, abbastanza cupo, sembra sottoterra, comunque si capisce che è buon pugno, comunque. E non c'è qualche problema, la barbarica proprio non sono le 80, è quello il problema. Anzi, se poi sia a posto, non lo so. Senti, ma non ti occupo del tuo strano. Allora, vediamo un pochettino. Adesso come sto scendo? Sono meglio, adesso va benissimo. Ti sentivo un po' cupo da parte mia, tutto lì. Comunque, chi c'è in ruota? Sentito a te, a Gianni Capri 2, a Quadratto, se non sbaglio, Pomponio e Gianni Doppio, non c'è nessun altro? Però questo lì si non lo so, è solo una persona che non fa ascolto, quindi non lo so dire. Anche perché è un bel tempo che non usiamo questo aggeggio. Si può che me lo usi da parecchio, mamma mia. Allora, ecco qua, il G-Bot, Mikey Gaines. Riesco a Pomponio, a sorpontare. Non si presta andando. Quando usi il barattolo, fa ricocciato, dà sempre problemi. Tutto il balle proprio. Ah, ma ripigliate la torre di Lucy, fai girare tu un secondo, dai, già rientro fra 5 secondi che faccio l'intablaggio di tutto. Ehi, allora riprendo anch'io, dai, ciao Antonello, ben entrato. Ci sono anch'io, qui a Porto Torres, Siluca, Medesimo e Giuseppe Leoncino, rilancio Leoncino direttamente. Buonasera, Antonello di Lucy, buonasera. Beato che ti risente dopo una marea di tempo. Gerardo, una settimana in stand-by, buonasera anche a te. Tu bene o male manchi un po', dai, io ero dai, in questi giorni un po' in ascolto, una cosa e l'altra, tutto lì. Perché a quanto pare, boh, gli orari non coincidevano, dunque accendevo, non c'era mai nessuno. Allora andavo nelle altre miriadi di frequenze ad ascoltare, dunque già la stazione è sempre in movimento, tutto lì. Sì, mi fa anche a me, scusa, mi sto mangiando le parole, sto mangiando la caramella. Mi è piacere risentirti anche a te. Ciao Antonello. Buonasera, Gianni. Sei commentista, già. Già, si tira. Bene, bene, tu? Io così, così, là. Già. Guarda, invece è meglio così. Ascolta, come sto scendo con questo microfono? Ah, è strano, rimane molto, molto acuta come modulazione. Questo qui è lo shure. Abbassa un poco già, stai sollevando troppo, abbassa quel volume dell'amplificazione. Guarda adesso. Adesso va bene, mi non duca, la so c'è così. Sei distorto, adesso va bene. Parlate una per volta. Io ti preferivo con l'altro. Forse per abitudine, non lo so, però l'altro ti ci addice di più. Vabbè, tanto per farlo girare un po'. Se no sta sempre fermo. Questo qui per me è migliore, perché si avvicina molto alla sua voce lo stesso. La fa la voce più, si avvicina più a quella della presenza, capito? Sì, quello è vero, ma forse l'abitudine, ripeto, di sentirlo spesso con l'altro microfono da quella piccola stazione diversa, dottori, comunque va bene uguale senza nessun problema. Questo ci ho messo un po', l'ho restaurato tutto da capo a piedi. Sei un bel po' questo, così messo da parte. Ci ho da un po', sì, ci ho da un bel po'. Era, diciamo, se non in condizioni pietose, forse peggio. L'ho tutto smontato, lucidato, verniciato, rimesso a posto tutto quanto. All'interno ce l'aveva a posto, però come esterno era molto consumato come vernice, come cosa. L'ho tutto riverniciato, gli ho lucidato le parti cromate, tutto quanto, è diventato un bombo. Il microfono alla tavola, giusto? Ma questo qui è quello che ti volevo vendere a te. Ah sì, mi ricordavo, era l'anno scorso, sì sì. Questo col Galaxy va molto bene. Stai uscendo bene, però io personalmente preferivo con l'altro. L'altro cos'è? BB più 5. No, l'altro è il coso, il Proxel. Ecco, no, io personalmente mi piace più con l'alta modulazione, che si avvice di più, rimane molto più presente. Scusate, una cosa. Capa, guarda, se parlo da lontano, da vicino. Non cambia di molto, Perché così sarà l'effetto camera. Vabbè, avanti, scusami. No, vabbè, dai, io devo interrompere, dai, vi saluto tutti, adesso spero di non dimenticarmi qualcuno, Gianni, doppio room, Antonello da Osso, capito, non so se ogni volta mi confondo, poi Gianluca, Leoncino, Antonello Pomponio, Gianni Capri 2, poi non so se mi sono dimenticato qua, comunque tutti salutati, anche gli eventuali amici in ascolto, poi reti da parte mia, ciao ciao a tutti, buona serata, buon proseguo. Ciao ciao Roberto, ci sentiamo, buon corretti e buon proseguo anche di serata. Avanti, visto che riprendo io, dai, così faccio girare, mi ricordo un po'. Ciao Roberto, alla prossima, grazie ancora dei controlli e tutto, buon proseguimento per serata e buon tutto. Ciao ciao ciao, avanti Leoncino, fa girare. Ciao Roberti, ci sentiamo alle prossime, dai, se concede, salutami il cuore e un buon trabacco per domani se devi andare a lavorare, dai. Avanti Capri 2, se sei all'appello, cambio. Eccolo qui, ciao. Vabbè, allora, buon corretti, buon tutto, buon lavoro per domani. E fate sentire più spesso che la tua presenza urge in frequenza. Riprendi a Torello di Ossi con la buonasera, ti rimetto il cambio, vai. Buonasera anche a te Gianni, sì, ti saluto. Ci sentiamo alle prossime, buon proseguimento di serata. Se non poi ci siamo, mi devono scaricarti la penna, sto cercando, sto collegando un sito a scaricarti tutta la faccenda. 706, così mi hai detto. Roberta chiuso, che mondo vivi! Scusate, Antonello volevo dire, non Roberto, Antonello, 706 mi avevi detto. A me 106EC 706 MK2G. Sì. No, io già le istruzioni ce le ho. Mi serve a sapere che finali portava la sigla. Sì, ma ho il servizio, no, bisogna vedere. Siccome la tassera avevo, ho fatto qualcosa, ma le sigle non mi ricordavo, ho riacceso il computer, hai capito? Non è un problema trovarli, se no te l'ho detto, siete in macchina, una sera facciamo un viaggio a trovare a Carlo e in cui è bambino soffettolo. E come vuoi, vabbè, non c'è problema, comunque l'hai visto il modello già. Guarda, non sai che lo so che ho riacceso il coso, il computerino che sto ricontrollando. E intanto rilanciamo tutto, Antonio, quanto riprendi? Ma no, che sta manovrando. Avanti, Leonci, fatti sentire. Leonci. Ehi, sono qua, sono sempre in ascolto. Ehi, io a ti e doccala, fammi intendere che cosa. E nulla, e ora vuoi ti racconti, nulla, c'è faccio matriciosa, sempre punta a capo siamo Antonè, ognuno, sa cosa, come si dice, problemi del posto di lavoro, tutto quanto, un casino, Altre due giornatine, ieri e oggi, e poi si vedrà. Mi sa che anche domani devo andare al Blue Star, perché la faccio del parcheggiatore. Mi sa che non c'è un tipo di, diciamo, di serate, dunque no, non le servo. Speriamo per sabato prossimo. Niente, io ho letto così di sfuggita nel giornale che agli punti c'è una specie di favata, roba del genere. Mi sa che ci vado domani, voi ci andate? Io sì. Se non ricordo male verso le 7 di sera, giusto? Non lo so esattamente, lo fuggono lì nel cantone. Esatto, dovrebbe accendere un falò, poi c'è la messa, canti santi, vabbè, io li lascio correre, non mi piacciono, è più forte di me. Comunque, per dare un po' là in mezzo alla gente. Adesso mi ricordo se era alle 7 di sera, devo guardare il giornale. Spero che sia scritto anche domani. Ti devo chiamare Antonè per andare. Per domani invece, per domani mattina devo passare. O ti chiamo prima di passare? No, passa, anche la passa. Non so, penso, non voglio dire che canta 10 e mezza, 11, penso, non più tardi, poi devo prendere mia figlia. La scusa che faccio la spesa, sempre se ci sei, se è un orario che a te vada bene, tanto si fa in fretta, 10 minuti e ti spiego tutto cosa devi fare, si può fare e tutto il resto, da tutto quello che comporta, e cosa ti devi ordinare e tutto quanto. Ehi, Antonio, se mi fa la cortesia, sì, non c'è problema. Se ti verrebbe a quell'ora non c'è problema. Verso le 10:30 passi. 10:30, 11, sì, sono da te. Cava. Come stavo dicendo, poi per domani sera ci mettiamo d'accordo. Perfetto. Poi speriamo che domani ci sia scritto, ripeto, per l'orario, perché c'è un certo orario, la messa sinceramente la vorrei evitare, tutto lì, e poi godermi il resto, ecco. No, aspetta, non è la messa, è la processione praticamente che va attorno al fuoco con tutti i pellegrini, prima di quando lo stanno spegnendo, va a fare i giri attorno al fuoco, con la processione. Io lo so perché tutti gli anni lo facevamo con il giro, ci sarà anche quest'anno, facevamo il servizio lui, capito? Stavamo attenti che non si avvicinasse la gente al fuoco, un gruppo serviva i pasti, insomma c'è la favata, sì, c'è una favata, per dare il vino, il pane, le fave da mangiare, ma lei è una via. Già me l'immagino, ma poi specialmente in questi ultimi periodi sarà ancora più lunga. Ehi Antonio, ma se vieni con me non c'è problema, io sono, già vi conosco a me, e facciamo in fretta. Viva gli contatti, ci sto. Ehi vabbè, come la pari si dorsi Antonio. Allora, scusate ping pong, avanti Pomponio, Pucca. Allora, Pucca tu di vado chi ti va a trovare? Ci vieni Luca. Buona vita Luca, ma ci vieni con noi? A domani sera Ehi. Ma per me si potrebbe anche fare Ricordo qualcosa in particolare per domani, che è il sabato, però non mi ha messo cosa, la verità, No, di mattina già sono di mattina lavoro, di sera già sono libero. Venga, che cosa domani, ma non mi ha messo cosa già. Devo controllare anche lì, dove c'ho gli appunti. Dato modulazione. Dimmi, Antonetto. C'hai un po' di alternata mentre i moduli. E adesso sono dall'altra parte, Antonio, devo pulirmi l'alimentatore e mando che faccio a ciabballo con Ghiccio, deve essere che non ve la faccio stare, vai a tirarlo. Ecco, no, tu fa bene presente, tu lì. E tu lì oggi? Anche tu puoi scorreggiare domani? Io ho il problema del bambino, lo sai Antonio, io ho il problema del bambino sino alle 8. Ah, vabbè, problema, non è pure il problema. Si può venire anche quando... diciamo è finito il tuo dovere. Qua non prometto niente perché a parte lo sai no, è la cosa positiva, poi non si sa, può darsi che da lì prosegua da metà dei punti e lascio la macchina in zona dopo l'abbiamo lasciato una volta con Gianni e vengo a piedi e faremo una scappata, può darsi, non lo so, non sono sicuro. E voi dai, tanto le porte sono aperte, e voi dai già, svagarsi ogni tanto fa bene, alla fine, non dico che risolve i problemi, però un pochettino dai, ti scarichi la tensione, ecco, a prendere in questo modo, tutto lì. Va bene, dai. Riprendi già. Appa gappa. Io ho fatto l'invito perché me l'hai già rifiutato due volte e ho pensato che sicuramente non ti faccia piacere che ti invitino, allora non te l'ho fatto più. Però se vuoi venire non c'è problema. Ah, tu lo sai il problema com'è, lo sai la questione mia com'è, no? Dunque, se è positivo, vengo volentieri, ma già lo sai la questione e non lo lasciamo per... poi, a parte poi, no, c'è una macchina che saranno... mi saranno capricci, capito? E vabbè, Giuseppe lo sa benissimo, se vuoi non c'è problema, scendiamo insieme, tutto quanto, come sempre abbiamo fatto, non c'è problema. Se vuoi tu, io non insisto se non puoi, ma comunque lì non c'è bisogno di quella cosa che dici tu, mangiano le fave, non si paga nulla e ci si diverte. Io te l'ho spiegato, se è positivo mi farò un salto, se no e ci troveremo lì, se no ti dico sì, già vengo e ci troviamo al solito punto dove ci trovavamo sempre una volta. Va bene, non c'è problema. Cappa, io a te non ci siamo, però se ci mangiamo non vengo anch'io a mangiare gratis. C'è fava, vino, d'embriagassi, vermi. No, beh, non mi interessa, io non bevo, non fumo, sono un ragazzo serio. Ma mangiare mi piace, anche perché puoi fare scorrecci. Ma sempre fumando quella roba, sta? Allora, quanto piace, fumando i sigaretti. Beh, è che ti sta soddisfando. No, lo voglio sapere, sto facendo una specie di sondaggio perché sono quasi intenzionato a prenderla, però ho paura che non mi faccia effetto e cose, che stai messo di così. Non ti fa effetto. Io mi dico, con 6 milligrammi adesso sono già a 9, e voi come stai fumando la mano, va tranquillo. Buonasera a tutti comunque, vabbè, se ce la mangiare, ditemelo, già ci troviamo lì. Chi c'è? Tonello, dice buonasera a tutti. Te devi fare il contrario, da 6 a 9 si è andato. Allora, si inizia con 6, io devo arrivare al mio conversato, il mio ora 9, sono arrivato a 9, ma sto portando tranquillamente. Vabbè, io ho un amico che è già 2 mesi che non fuma sigarette, mi ha detto che per lui è stato una mano ad alcere, le fumava 2 pacchetti. Ne fumavo 2 e mezzo e comunque è come la sigaretta, perlomeno quella che ho comprato io, poi la mia è comprata in farmacia, eccetera eccetera, con tanto di tutto quello che serve, e poi è nicotina pura, non comparti al gusto di menta, al gusto di uccello, al gusto di pistacchio, deve essere nicotina pura, e tu vorrai che ti soddisfa. Ciao Antonio, buonasera. Ciao Bla, buonasera. Ti sento più rauco del solito. Speriamo che non sia quella Gigioli. E niente, c'è la porta aperta a tutti. Volentieri, ci dovrebbe essere Pape. Così ho letto, ripeto, di sfuggita nel giornale. Ecco, tanto per passare una serata diversa. Sarà, pure la verità non ci sono mai andato. Dunque, perché no? Mi farebbe piacere andarci. Poi ci troviamo lì e ciccia. E vino a fiumi. Antone, ma... che c'è detto? Chi c'è? Che cantante c'è? No, cantanti no. Io ho letto musica sarda, gruppi sardi, però non so che compagnia partecipi, la verità. Non lo so quello, perché, ripeto, l'ho letto così sfuggita, però ho visto lì punti, un fave buono, vino, falò, non so che cosa, perché no, ho detto. Organizziamo. Cappa. Cosa ti stavo dicendo, Antone? Che... niente, lì c'è molta gente dei paesi, ai punti ci sono molte persone di fondi, si gioca alla burra, fate queste cose, però il giorno dopo solitamente c'è un cantante famoso, l'anno scorso mi pare che c'è Anna Oxa. Quindi la domenica, ciao Cla, la domenica sei detto. KK. La riflettore. Bisogna giornare a Piori che non è capito la cosa, è sempre la fatto, te l'ha appena regato mi. Sotto il schermo, sotto il inglese. Ciao, grazie. Ehi, ciao, grazie, già. Comunque, visto il modello, ti piace? Cosa ne pensi? Un tuo giudizio? Tu sei in pavino, neanche in carta, quando lo vedo che lo tocco con mano, come Gianni poco fa, sono disposto là che a prenderla la data qua, ma in due però. Dove già? Tu, già hai capito? Già niente. Claudio, come fai a dire, fammi capire, cosa vuoi sapere di Antonello? No, un coso di quell'apparato voleva, gliel'ho scaricato. Tutto, un uomo che devono le fondi che problemi. Che cosa? Ricordo Ciantanello? Già. Ui, tu Ciantanello non ha bisogno di scaricare niente, già scaricato. Io, ma gliel'ho detto, Cla. Gli ho detto che il manuale ce l'ho. Volevo togliere la curiosità che stavano dicendo, quelli di questi finali non su internet, io non lo so. Dice, dammi la sigla di finale, ma siccome io non la posso dare, perché il finale non ne ha questo, si erano bruciati, dunque sono stati tolti. E adesso che facciamo una ricerca, gli ho chiesto a vedere il nome, il numero della sigla di finale. Sì, già quello posso guardare lo schermo, però se lo vuoi mettere a posto, posso andare da Carlo e lo metti a posto, che non ho fatto una cosa con Camera. Quindi con quello io, con 40 anni di radio, ti devi togliere il cappello, perché quella è una radio, quello è un riccio trasmettitore, ti devi togliere il cappello, capito? Non è come quella che c'è tu, come quella che c'è io quella ce l'ho avuta, bisogna togliere il cappello, ma il cappello però, capito? I finali con la radio si trovano in continente, non da Carlo. Carlo sa manco dove metto le mani con la radio, va tranquillo. Quindi quei finali si trovano in continente e poi decido l'Antonello se montarli o non montarli. Finali di tempo non ce n'è, sono stati tolti perché è stato fatto al ricevitore. Dal momento in cui lui lo vuole fare a ricevitore, chi gli ha dato sa che cosa vuole fare, non ci sono problemi. Però quando si parla di con la radio, in quanto momento ricevitore, anche come ricevitore bisogna togliersi il cappello, capito? Ma il cappello però. Ma tu me, quando dico io sto sempre sul ponente, mi nel uovo, quando me la fa capire, mi nel uovo, di avere, so se c'è caso, no, io l'ho visto accogliere adesso nel manuale e presenta bene, poi se Claudio lo dice, adesso mi Claudio ha messo indietro le radio nostre per quella, vuol dire che merita veramente. Ok, riprendi già, ti rimetto il cambio. Non ho sentito a Claudio. Non si deve essere accorto che ho cambiato apparecchio. Oh, sento il bip, non me ne sono accorto sinceramente già, perché la moto che non rimango molto in questo, quindi non mi accorgo delle cose. L'apparecchio microfonico è stato cambiato, l'altro è tutto uguale, solo il microfono. Ma è ora che sento questo, il gas stai usando. K, con un altro microfono. Ma che microfono normale? Cos'è? Non c'è l'eco. No, non si è uscito già, non sento l'eco, ecco perché, pensavo che avvisando un'altra radio. Adesso l'ho alzato, vediamo un po' se li ascolti. Sì, adesso c'è l'eco. Cappa. L'amplificazione com'è? Va bene, sì. Alla grande, cos'è? Il Galaxy con l'MV5. No, questo qua è lo Shure. Bella. Però prima non era solo il Vattami. Adesso ti sento bello amplificato. Kappa. E vabbè, ogni tanto lo attacco, ma non c'ho posto a metterlo, bella sorte. Devo trovare il posticino per lasciarglielo. Quando lo voglio attaccare, glielo attacco. Troppa roba c'ho. Troppa roba e poco spazio. Lì bisogna fare un mobile più grande. Vabbè, dai, facciamo girare. Comunque, Gianni Capilue, quando tu mi senti a me, non disprezzare, perché non si rispetta mai niente, per carità. Ci fanno le comparazioni. La radio E non volevo dire niente, no, già sono contentissimo. Però devo dire una cosa, che ho fatto delle diverse prove così, tramite segnali, diciamo, mentre sono delle modulazioni, bene o male, ce n'è di varietà, no? E dunque, diciamo, quegli radioamatori quando ricevevano, diciamo, uno trasmetteva e poi l'altro lo riceveva, gli dava il segnale radio. E sinceramente quello che dicevano loro risultava anche a me, capito? 9:20 arrivava, 9:20 arrivava anche a me, dunque utilizzando la mezz'onda vedo che va più che bene come ricezione, capito? Confronti agli altri non ce ne ho né di meno né di più come segnale, rimane sempre quello a tutti gli altri. Ma c'è una bellissima radio veramente, io l'ho avuto e ti posso dire che quel tipo di radio ha un ricetrasmettitore, ma soprattutto un ricevitore, è praticamente come già spiegato, è la figlia del 7004, è quella che ho io, quindi ti ho detto tutto, allo stesso menu, sotto menu, il display è molto simile, è fatto un po' più in miniatura, ma perché è stato fatto anche per poter mettere in macchina, però è un quadro in banda che non si discute, una radio favolosa come ricevitore, come trasmettitore, quando ne avrai l'opportunità di usarla, e te lo auguro, però come ricevitore io penso che non ce ne sia, di quella fatta non ce ne manco se ti ammazzi. Chi mi ha chiamato? Ciao, io, come sto uscendo, come una volta o basso? Com'è? Ma qua c'è 9 più 60, la radio è sempre la tua, buona, lo so. C'è l'amplificazione, buona, non basso, non lo so. Va bene, è sempre la stessa, non lo so, però se chi a me siamo troppo vicino, vedi che ho Gianni Capedua, Gianni Obbiagoma, a Gianluca, mi pare che sei anche Gianluca, insomma chi c'è più distante, ciao Giuseppe, buonasera, hai sentito anche a Carlo, vedi che ho Antonè, qua c'è il fondo scala, cosa ti posso dire io? Ok, come tutti quelli che ci sono qua là, non da fare nome, figliata, sta scrivendo tutto qua. Come sto uscendo? Bene come una volta, male con la 80. Come ti come non stai uscendo, se sei dentro casa, ti ha prova di sala che sei da fondo scala in 9. Fondo scala, come va bene, però è cuffa, la radio è cuffa Antonè, conforme alle altre volte. Qui la sento cuffa, il segnale è perfetto, la radio è cuffa. Radio cuffa. Cosa fa ancora a me quando non uso le cose? 2, 3, 4, 5, 6, aspetta, 7, 8, 9, 10, forse ci sono adesso, adesso è più chiara. Mi sembra appena appena come, però una peggiore arriva questa. Sì, è buona, però più squillante l'altra volta. E come che tu gli hai dato troppi bassi? Aspetta, non confondere il 80 con il 2009, con il microfono salenta. Che discorso è diverso. Ma mi sembra meno amplificato, poi io mi sento meno amplificato da detto Sirica, non so cosa. Vabbè, vuol dire che mi passo un po' di CDC, sono quasi due mesi che non lo uso, figurati. Quindi potrebbe anche difettare. Mi sento un po' strano, sembra che ci abbia l'amplificazione quasi a zero, cioè il macchino quasi a zero e non c'è amplificazione più che altro. Va bene, ok, ripeto a tu Giuseppe, se ci sei. Ehi Antonè, non ci sono problemi, io rimango qua in ascolto, dai, sono qua in ascolto, che mi sto guardando un programma e rimango in ascolto, dai. Riprendete chi c'è in ruota, dai. Gianni Doppio Rugo, riprendi tu. Sì, aggiungo, ti volevo chiedere che come mi ascolti con questo microfono? Con questo microfono ti sento. Sì, è buona, però non come l'altro, quello che usavi sempre, un po' chiuso, sì, dai. Chiuso come radio? Ma la radio c'è, però chiuso nel senso un po' che sei dentro un, cosa ti posso dire, dentro un... Una zambulana. Un sacco di patatine. devo portarle sul banco le altre. Se ce la faccio poi stanotte me le rimetto a posto. Hai imbiancato la parete, grazie alla condensa, capito? Io lo so che ci tengo, hai capito? Ma il degrado non lo uso più, te lo prometto, grado, ormai non lo uso più. Se vengo lì prendo tutti quei baracchini che c'hai, grazie, ti ringrazio in ghiaccio. Quegli HF, non voglio dire un sacco. No, davvero, non lascio uno il buono. Che anche voce hai ridi, dai. Davvero, no, fa ridere nel senso. Ma voce ha? No, me ne lascio uno, il capo mi lascio e basta. Capito, anche perché c'è un gacca casino fra di noi, capito? Di mettere, sto ordinando una cosa, sto ordinando a vetri di occasione e poi mi avevo detto tu dove metterli. Ok, ma non posso attaccare qua perché bevi finestra su un po' per salita, riscale, no? Poi che vale le ciao rasura, ciò delle scatole, poi prima di coricarmi do una polverata alla base e metto lì il capo sopra. Ok, comunque Antonio adesso un po' ha migliorato e non so come ti sento, avanti portatore del Gianluca, ti rimetto il cambio. Gianluca si deve essere scocciato. Ah, no, tranquillo, sto venuta, tranquillo. Fatto e fatto, non c'è problema. Gianluca. Dimmi. Dove ti scendo adesso? Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, come da un'azione? Io ho già ascolto sempre bene, però diciamo che in precedenza ti sentivo molto meglio, dai, come modulazione. Adesso non so se stai usando sempre queste cose o se stai provando qualche altra cosa di nuovo. Mi deludi, stai uscendo male. Mi sto usando buio, c'è tanto la verità. È una fatica segreta al microfono. Quando una cosa non si mette in tempo da bambino, sempre le balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo va bene. Sta andando andare meglio. Forse è perché sto scontando. Adesso mi sento un'amplificazione un po'. Ho pigliato me. Adesso va leggermente meglio. Sinceramente l'avrei abbassato proprio leggermente, non direi. Sei troppo compresso rimane. Sì, c'è l'amplificazione, ma allo stesso tempo io ti sento molto, molto compresso. C'è la porta. Allora, ma la porta meglio com'è? No, prova a abbassare un altro po', fai il favore. Se puoi, sempre. Sì, certo che posso, perché no. Ma dopo, 1, 3, 4, 5, 6. E adesso secondo me va benissimo, meglio di prima. Va bene, allora, ok, poi sabato già ci sentiamo al baracchino, lì già ci vediamo. Devo portare il baracchino di Piazza Madampo e allora mi senti tutti, non tutti i giorni, vabbè, quello che è. Sono sempre già senti Alessia. Era ora e non so, ho detto che dovevi piattare il mese scorso, poi no, non hai fatto nulla, appunto ti sei imbriacato. Sarebbe ora. Sì, già entra mia nipote che c'è, gli sta pensando il baracchino di a casa sua, un po' quasi. Mi ha detto 2009 la Grand Plain e me l'ho apposto. Già tranquilla, in cameretta sua. Già d'accordo stasera con Giovanna. Infatti è venuta qua, ha parlato con Giuseppe stasera. Capito? Perché io dice mi sta parlando la sorella, mia sorella. La metà è detto, non c'è venuta. E invece era una buona, non so chi cavolo sia entrata ieri sera che era baracchino, la verità, e quindi mi ha fatta sentire la modulazione che è diversa, più che altro. Infatti questa stata magari Giovanna sembra essere presentata, ma questa blu e chi l'ha conosciuta, cioè io non ho mai sentita la verità. Che se la stai dicendo? Sì, ieri sera, esatto, sì. Infatti certo pensavo che fosse a casa mia questa, io no, la verità è che Giovanna non c'è venuta. Questa è venuta stasera e ho fatto anche sentire. Tutto lì. Io non ho quel dubbio Giuseppe perché altro è la verità. E quindi ho detto là. E tu mi chiamo e ho detto arrivo tra la regione. Poi invece lui è andato via e è arrivata dopo quasi un'oretta Giovanna. E ho fatto sentire la baracchina per motivo lì stasera. Infatti l'ha anche salutata, salutata a tutti. Ma tu accendi in ascolto lì. No, la verità non c'era di nascosto, a parte il cazzo aveva letto proprio con le, non mi proprio neanche le ginocchia ieri sera, era freddo, ho preso avanti ieri facendo la spesa. E quindi mi ha detto Giuseppe, c'è diventata una ragazza e non so che cosa, e si è pensata come Sabrina, non so che cavolo sia, verità, conosceva lui, conosceva me, e gli ho detto io Sabrina non me la ricordo, me l'ha detto, non si è ombrato dei punti che si è entrata, ma Sabrina proprio non me la ricordo. Si chiamava Serena, si faceva chiamare Serena, e ha chiamato anche a cosa, a Simone, ha detto Simone vieni che ti vogliono parlare, e lui ha detto ti sei tradita. Ma Simona, la baracchina lo sa, non si parla quasi mai, quindi mi si è andata un po' di volta la raccolta, quindi vi assenti. C'è la pizza, quindi ecco perché ha pensato che fossi qua, quindi è Serena, non me la mento, non me lo ricordo, ho passato un po' di tempo, sono tutti le ragazze cibili che sono entrate e a ripagarmi tutta per le prima ha detto che voleva passare il vecchio, poi mi ha detto a me mi ha invitato al bar sotto casa tua, ha fatto capire praticamente che era lì, capito? Questa ti ha spiegato una cantonata, dura. Certo, ma dove sei? A casa di una persona che conosco. E lei sì, eccetera, eccetera. Però se ha fatto il nome di Simona, no, e gli abbiamo detto, dai facci parlare se è vero che sei lì. E dice, non vuole parlare. Tu, fratello di Simona, lo sai che già la conosci. Senti? È vero, è vero! E ti ha salato! Si è bruciata la pizza di Aleta, si è parlato di una fornetto! Mi picchia due minuti! Antone! Ehi, un secondo, aspetta, vengo subito, se no brucia poco la pizza, aspetta! Lasciala bruciare che è più buona! Avanti, Cla! Dove avvisare? Dove carità? Aspetta Antonello, insomma qui qua state parlando perché io non vi ho seguito, no, non c'ero, quindi non lo so. Ho visto ieri che c'era un QSO nel 5, un paro nel 10, poi se non mi ricordo, ma stavo ascoltando ma non ho capito l'incidente. Va bene, avanti Giuseppe, riprendi, fai girare per Gianluca. E capa, mi sono confuso io pensavo fosse con la cola, invece era un'altra persona, mi sono confuso io di persona, no, ma mi ha detto delle cose che mi sono venute in mente dalla stazione, che ho mangiato a casa sua e da lì, in campagna, e diciamo, ho messo tutto quanto, hai capito, no? Già. E hai collegato tutto, però hai collegato male, anche io ho collegato quello, pensavo che fosse Alice che stesse scherzando e che fosse la sorella, ma tante volte ci si sbaglia. Ci avete le apparecchiature allucinanti oggi, non ve ne va bene manco una. Questo non te lo cambio. Ora capri tu, facciamo scambio con la 44 e qualche altro apparato. Ah, mi basta che me ne un baracchino sui canali, ti rinnovende. Non ce l'ho, infatti stavo cercando uno vecchio, vecchia data, dato ad avere la mia stazione completa. Anche se purtroppo non c'è quasi più nessuno, comunque si va a fare radioascolto quando c'è qualcuno a modulare. Dunque, per la mia stazione ci vuole un vecchio apparato, vecchia generazione. Oh, Antonello di Usi. L'unico scemo sono io che questione. La Sagusu, non la Portugusu, la Sagai, basta uno lo scemo a convenzionare queste cose. Riprendi qua, lei che ti ha confrontato, mi volate, ma l'ha attaccato, dai. Tu confrontate, non sei nessuno collezionando già. Mi dicono che vanno 1.000 apparecchi, 2.000 apparecchi. questo a battere in caso del riscatto, chiedo a tutti quei vecchi 23 che ci hanno. Ma niente, Jack, io oramai le collezioni le ho finite perché ho passato tutto il giorno in Carpedura, però mi sono rimaste delle cose che Walter non ha, tu immaginate che lui non ha, e lui si è attaccato lì che punzecchia, che lo vuole, ma non ce n'è, vabbè. No, Gianni Caprilua, ti sto avvisando, dove che la brutta usa non destra, non te lo dico più, metti la vetrina, metti tu in garage, quando ci sono io, tu guarda il modulo con 440, quando non ci sono io puoi portare quello che ti piace, ma quando ci sono io, modulo con 440, va meglio di avere tutta quella roba bella, brutta, tutta lucidosa, furia che era. Pasco, io un favore te lo posso fare, passo col furgone e mi ritiro tutto, vedi a me lo tratto di da mezzo e lo spesi più. No, la uso un capello e poi lo riprendo. E anche lui ne ha una. Sono Gianni. Una montagna che lo riprende tu. Quando la butta sono lo spazzino, anzi non se ne ha due, perché so cosa c'è, cosa gli è rimasto, vero qua. Senti, io lo so, già mi è rimasto, ma quelli sono dei testi rari che... È difficile che dia quello che vuoi volare, già lo sai, te l'ho fatto col cuore. Tu, Johnny Volkerum, lascia quello che vai, anzi, muro tu, non perdi tutto e piglia di chi ci devi pigliare. Vediamo, non lo so. Ci sto pensando. Ci pensare, chiudi gli occhi, fai, dove ti ho occhiato, chiudi gli occhi. Che stai facendo una cosa bellissima che non ti pentirai mai. Guarda Antonello, ha chiuso gli occhi, anche se non può trasmettere, poverino, però c'è una cosa micidiale, ma così bella, tu la conosci quella che c'è Antonello, perché l'hai vista in macchina da me quando c'avevo l'Audi, e non ce n'è per nessuno, ora c'è un ricevitore che ascolta anche la mosca. Io a questo punto, anche se non la posare in trasmissione, me l'avrei aggiustata e l'avrei messa a posto. Di modo che se un giorno potrà usarla, la userà. Infatti, Antonello ha fatto una cosa grande, che io non mi sarei mai aspettato, perché ha fatto una cosa grande. Per il momento lui ce l'ha, ed è nuova, bellissima, ordinata, mancano solo tolti, sono stati tolti per metterli nuovi e non sono stati mai messi. Quindi lui sa dove deve andare, senza fare molte discussioni, sa già tutto, no? Te l'ha già detto la persona, Antonio, quando lui contatta chi glielo ha dato e con la radio sta trasmettendo, perché mi rimpiazza direttamente lui, però c'ha una radio, quello non si scherza. Quello ha una radio e io quando dico queste cose le dico perché le ho già provate, quindi di prove ne ho fatte tante. Come vale per te Gianni, lo sai, io sono amante di quelle cose lì e quindi mi dispiace. Ho visto che mi hai risposto in un modo un po' particolare stasera. Tu lo sai, io poi già però mi tolgo anche gli occhi e quindi ha avuto un problema con il 430 che ce l'ho io qua, praticamente è partito l'oscillatore della M, va solo bene in banda naturale, visto io ce ne ho di radio tantissime e ho preferito darle la mia e metterlo in condizioni veramente di essere operativo al 100% e ritirarmi il 430 e usarlo solo in banda laterale, perché io lo uso solo in banda laterale in 10 metri, quindi non mi è dispiaciuto, so che c'era lui, però quella e sottolineo quella è un'altra radio da tenere molto in considerazione, perché come tu sai Gianni arriva da te a me e quindi sai cosa è stato fatto in quella radio, sai dove è stata comprata. Ed è veramente bella, bella in tutto, in trasmissione, in ricezione, in tutto. Che cappa, infatti mi ha detto quando io l'ho presa, te la guardo prima, te la allineo tutta quanta, poi mi ha chiamato e mi ha detto guarda, la devo allineare ma è tutto perfetto, non ritocco nulla perché è perfetta. E così me l'ha mandata, ha detto il microfono non te lo mando perché questo vestipigliolo, c'è qualche graffio, è un po' scorticato, allora ho detto che microfono lo mandavo nuovo, nuovo di zecca, 175 euro. Ecco, per un milione e 60, fatti un'analisi di fanato, vado un attimo, mi faccio girare subito la ruota io. È tanto carometro, quindi ho tante cose da dirvi. Mi segue una 1260 già, ma non me la sono sentita, avevo una MC50, mi sono fatto le connessioni cable perché erano ICOM, e l'ho messo sul 430 e manda laterale e spinge anche una fucilata, perché la spinta manda laterale, si sa, ce l'hai, eccetera. Però per Giampino è stato un colpo, perché a lui le piaceva tantissimo il 430, però non ce la faceva più ad usarlo, praticamente in qualsiasi canale sentiva tutti, lui era in 10, sentiva anche Sassari, dal 12, noi in 10, per lui sentiva Sassari, sentiva voce a tre parti del palito oscillatore, quindi andando a oscillare la media frequenza, bastano 20-30 km che lui sente tutto, e quindi ho fatto questa cosa e sono tranquillissimo e sereno, perché insomma, almeno l'ho messo in condizioni di lavorare tranquillo con quella radio, la nuova, non ha problemi, non deve chiedere niente a nessuno. Ok, allora io vorrei rilanciare un attimo a Gianluca, poi Gianlu, vai per chi vuoi tu, avanti. Lu. Adesso deve essere assentato, ma si può riparare qua? La verità no, non conviene. Sì, ci vuole oscillatore nuovo per la M, però non conviene, dai, anche perché insomma sono radio vecchie, quando spendi 200 euro per mettere l'oscillatore nuovo, perché non hai cosa si può fare qua, devi mandarlo su, e Bianconi è una di quelle persone che non sta lì a guardare quello che ci vuole, te lo mette e tu inizi a scrivere in quella agenda che lui ha, e non ne vale la pena, quindi ho preferito fare come faccio sempre un giorno con la speranza che abbia capito il mio motto, che abbia capito cosa valgono le radio, tanto so che sta ascoltando, quindi spero non la faccia sparire, non faccia cambio con qualcosa, perché quello è veramente penso uno dei pochi 140 che è rimasto in provincia di Sassari integro e soprattutto mai toccato, mai cavato da nessuno, come si dice in gergo sassaresi. Adesso tu c'è qualche altra radio accesa in ascolto? Io ho l'850, poi ho questo è Sud America, però Antonetto, attento, io non so se si è passato via Milano, ma ci sono due antenne con le corna. Le corna sono ancora basse perché non ho finito i lavori, poi le sollevo tutte e due assieme, e quindi questa è la direttiva 3 elementi, full side, no, questa non è la full side, sono in 40 metri, allora 7073 c'è praticamente il Sud America, non so se tu lo senti, ma dovresti sentirlo. Aspetta che lo segno, allora, vediamo un po', 7000, fanculo, aspetta. 7000, poi mi hai detto? Io qua c'ho nel vice trasmettitore, adesso è molto basso, ma già di tu lo sento. Ecco, c'è su domenica 7073.00, 40 metri. 7000.073.00, adesso provo. Facciamo girare, vai, Giuseppe. Aspetta che lo abbasso il volume, Giuseppe, riprendi il tuo fai girare, allora, qui poi io, ditemi, non ho capito se questa fetta è di punti e quando è, non ho capito. Allora, domani sera di punti è Lugano e Giancantoni, fanno un grandissimo falò con tutti gli alberi che tagliano e queste cose qua enorme, e poi bruciano questo coso, là c'è il pupazzo all'interno. E fatto sta che poi c'è la favata, danno le fave gratis, c'è il ciso che dà le fave, tutta questa roba qua, almeno che quest'anno non lo faccia, ma l'abbiamo fatto sempre tutti gli anni. C'è il gruppo che sta vicino al fuoco per stare attenti, cazzo non so quanto sudi lì, ce l'ho fatto io un anno lì al fuoco, non ha di più dove va, ti brucia la faccia proprio, oltre che sudare, ti brucia la faccia. Non devi far avvicinare la gente, capito? E poi c'è la processione che passa attorno al fuoco con i pellegrini e poi bruciano, mettono fuoco al falò. Tutto lì. È una festa che fanno ogni anno. Eia, scusate. Sì, già li ascolto, mi arrivano Santiago, un Santiago di Oto. A te quando ti arrivano? Un vai e vieni e un po'. Neanche a paragone, giustamente, tutta un'altra minestra. No, li ricevo benissimo, io a voglia. Bello, perfetto, comprensibile, no, di lusso. Sì, ma per me li ricevo proprio bassi. Ho messo però è attaccato la comunità con la antenna, non è un'altra antenna. Li ricevo ma... Dicevo chiarissimi, guarda come sto ascoltando a voi, a voglia. Ripeto un po', poi vedi il segnale, però mi arriva 7-8, tranquillamente, si illumina tutta la stringa, poi arriva sino a 60 quando arriva Claudio, comunque siamo in vicinanza e via. No, no, va più che bene, di lusso. Ma io ho la mappa, ma capito, non ne ho altre antenne, proprio per quello, non si accorda bene, capito, fatto un po' lo giusto, neanche con un filo non servirebbe il mito della mappa, ma non li sento, però passi. No, se sto usando la mezz'onda, tu c'hai un'antenna molto, molto, ma molto più superiore della mia. E non arrivano passi qui, Antonè. Arrivano passi perché c'ho il commutatore con... Non li sento... Perché io c'hai voluti da avanti, per forza. Ho messo su Facebook, ci parla. non toccate quello dell'antonello, ma non perché lo dico io, perché lo dice il mondo intero, no? Cioè, lui è andato, l'ho mandato io, è andato a prendere una cosa, è stato consigliato da un radioamatore e gli ha detto lo vuoi questo, guarda erano tre pinti, e ha fatto una cosa fatta bene. Ciao Luca. Infatti me l'hai consigliato tu, Clark, ho aspettato un anno e mezzo la verità, perché ho sempre chiesto, poi non riuscivo mai a trovare quello che mi interessava, quella è la cosa migliore che potevo trovare, giustamente, grazie al tuo consiglio. Maurizio, io col cuore ti ho dato perché mi sono tenuto sempre il manuale e della vita come ho fatto, tutto praticamente dall'inglese all'italiano, tutto rifatto da capo, ci ha messo una settimana, la tipografia per rifarmelo, e te l'ho dato col cuore perché voglio che lo tieni molto in considerazione, quello, vorrei che lo tenessi molto in considerazione con la radio perché è veramente eccezionale. Luca, buonasera. Perché lui entra, saluta, poi se ne va quel cazzo di computer di merda, avanti Gianni. Anche il 140 va bene, dai, quello che c'ha per dire che c'aveva Franco con i finali bruciati poteva andare bene come ricevitore. Già, stiamo parlando, guarda, ma così lo sapete, io non ho minimi temi quando parlo di radio, mi piace parlare con voi di radio, di mille difetti che possiamo avere, che possono avere tutte le nostre radio, però stiamo parlando di una 500 e di una Mercedes, lo so, io sono cambodiano, quando parliamo della radio c'è Antonello, loro 707 K2G, quindi ultima serie nata, perché io ho avuto la prima serie che era 706, poi è nato 706 MK2, poi è nato 706 MK2G, però c'è quello con i moduli che non ce n'è per nessuno, capito? C'ha dei filtri allucinanti, ti stringe sino al zero, ti fa ascoltare la mosca. Non ce n'è. Io non però, cioè, se lo parlo in questa maniera lo credete, perché ho già provato quel tipo di radio, io ho comprato l'ICOM C7004 che è il padre di quella, praticamente il base, però è lo stesso menu e sotto menu del 707 K2G, né più né meno. Vabbè, allora Antonio ha fatto un buon affare, dai, ha fatto un buon affare, ha cominciato dal portatile e poi è andato direttamente sul giusto, sul sicuro. Ce n'erano alcuni su internet, ma costavano troppo, le stazioni base, però come lo voglio io. Io voglio una stazione base, mi piace di più. La stazione base mi soddisfa di più, fa più stazione. Sarò fissato io qua, però mi piacerebbe un bel base. Ma attenzione Gianni, che le cose piccole sono più belle, sono più, perché questo è il motto che mi ha insegnato sia Marco, Walter e tutti i grandi programmatori che voi conoscete. Mi ha fatto molto attenti con le radio piccole, perché non è detto che una radio grande possa essere grande in tutto, nel modo più assoluto. C'è l'857 che si mangia radio HF di ultima generazione, attenzione, è quello, uno di quelli. Intanto Antonello c'ha una radiolina, c'ha un quadribanda dove va da 50 kHz a 50 MHz in continuo, ricezione e trasmissione, dove c'ha tutte le VHF, c'ha le VHF e le VHF separate con il doppio display, dove c'è una radio, non c'è niente a fare, quella è un ricetrasmettitore che nel suo piccolo, non è piccolo perché non è piccolino, c'ha 150 watt in mano laterale, 100 watt in 50 mega, 100 watt in VHF, 100 watt in VHF, non una radiolina, monta finale macroottico che fa paura. Fa delle cose molto interessanti, ma a parte quello che fa è il ricevitore che è molto sensibile, capito? È molto molto sensibile, quindi non è detto che una radio grande solo perché grande possa fare di tutto e di più. Ci sono le radio piccole, ripeto, come quella del Ciantonello, come l'857, come il 957, come tante altre di quella dimensione lì, che picchiano forte. Sì, ma già me lo ricordo che usci quel frontalino da davanti, potevi mettere l'unità centrale, potevi nascondere il frontalino, potevi metterlo dove volevi, me lo ricordo. Lo aveva anche un'altra persona, dai, che conosciamo. Sì, ma tu l'hai visto in particolare, quando io ho fatto lavoro nell'Audi avevo quella, proprio quella, e non ce n'era, va bene anche nella 27, quella 27 con l'SM20, col suo microfono a tavola, come che stai usando una radio simile, insomma, non è che poi non tutte le ciambelle escono col buco naturalmente, però quelle che escono molto bene, quella è uscita veramente bene, ti dico che in tutti gli anni io sono animatore, quando avevo quel tipo di radio mi sentivo molto soddisfatto perché ricevevo tutto e di più, capito? Poi l'ho passata per prendere il 950 e quasi quasi me ne sono pentito, perché poi è sparito anche il 950, quindi alla fine non ho avuto più né una né l'altra. Vabbè, 140 oggi anni, lo sapete io, c'è il definisco 140, un baracchino a sintonia continua, quindi ultimo trasmettitore per l'AM, ultimo trasmettitore per la banda laterale, per l'FM, è un po' rumoroso il bando laterale, perché non può stringere di banda, non ha filtri, non ha niente, rispetto per dire a un 440 o un 430 che hanno i filtri, però qualità prezzo è sempre un HF che ti permette di ascoltare, di trasmettere, di fare. Poi, se certo in mano a grandi radioamatori lo prendono, lo spengono, lo mettono da parte perché è troppo rumoroso, però il 706 non è così, il 706 è una carta a tutti gli effetti dove non ci sono pecche, insomma, ecco, per capirci. Gianni Capidua, a te fa girare per Giuseppe. Questo qua io ti paragono a, non dovevi fare il lavoro che fai, dovevi aprirti un negozio, non è sempre di quelli proprio che parlano, che fanno dimostrazione di televisione, non fa una crisi, cioè sei proprio preparato in tutto, e fino a 10 e 9, hai capito? Io conosci il mio papà, ma le conosci io apprezzo che questi discorsi rimango ore ascoltandoli, perché sei preparato, ma lo incanti, non fate sborrare. Dico, però non c'è questa... Guarda quel giornale già! Guarda il giornale, come si chiamava? Per dire, facciamo girare. Ti ringrazio Gianni, ma è l'esperienza che abbiamo acquisito un po' tutti nel fattore radioattivo, quindi non è una preparazione fatta o avuta per titolo, ma per esperienza vissuta insieme a tutti quelli che fanno radio, quindi non è quello il problema. È che quando si usa una radio chiaramente si conoscono i pregi e i difetti e quindi si va a chiacchierare, si va a dire a uno e all'altro qual è il problema. Ho sentito nuovamente Luca, avanti, buonasera, allora venga in chiesa qua a capo ci compito. Vabbè, non le prende? Lucrezia. Ehi, no, ma Gianni c'è, scusa, Gianni. Ehi. No, Gianni di... sono attenuato io qua, perché Carlo è arrivato troppo forte, lo devo attenuare, solo lo ascolto male. Ma Gianni stava parlando. Capri 2 c'è, sì, Capri 2, avanti, c'è Luca. Sì, buonasera Luca, salutone, sono io, avanti. Saluto perché solo lo sentivo, allucinante. Ehi, non mi ha preso bene, lasciami perché c'è Claudio, a Capri mi puoi mettere del periscalo. Io perisono. Conforme a Claudio, c'ho tanta passione, ma sono un asino, hai capito? Posso pigliare una fregatura nella radio di questo stampo, questa radio, subito, uno mi può presentare una radio, capito? La comprerei subito senza Claudio e proprio. Nato, c'è un coso, una roba che le fa la radiografia, hai capito? Quindi, la passione stazione mia è tanta, mi piacciono tantissimo le radio, più i baracchini anche, perché non lo nego, hai capito, e però diciamo tanto di cappello, anche quella roba che stava dicendo che ha comprato un quello, che io non ho ancora visto come l'ho sentato, mi inviterà a farmela vedere, hai capito, e poi a metterci i finali, come ha detto Claudio, o quando almeno la metterà a posto, non la potrà usare a suo piacimento, e sono contento, e Claudio però è una persona, io l'ho anche studiato a Claudio, che le piace, che la gente giri con apparecchiature professionali, hai capito, che usi una cosa, ecco, spendi due lire, però spendile bene, così mi prendi paracura. Ma quello pienamente d'accordo, diciamo che ci voglia avere qualcosa di più, di più di un apparato, che giustamente già impari e ti appassiona ancora di più, anche quello è buono, spronare anche le persone, sempre la loro possibilità ad avere anche un pochettino di più della 27, ecco, che già è bello ugualmente, anche quello quando fai radio ascolta come fare radio, e c'è una stazione un pochettino completa alla fine, dai. Io te l'appoggio. Ma tipo un po' a te tocca da me, oggi sto uscendo bene, sto uscendo bene, dai, era ora. Quindi non prende perché non uso questo aggeggio, il discorso è poco. A volte c'è bene, a volte c'è male, quindi per quello. Cioè va bene, va bene, fa girare, chi c'è rimasto in questo canale? Questo è 80. Sì, sì, 80. Come mai stanno andando male, cosa c'ha? Stanno male che cosa? No, stanno bene adesso, quando usi, cioè, fermo quasi 3 mesi perché non lo stavo usando e va male, sembra strano, e adesso come va? Anzi aspetta un attimo, forse il problema non è quello, ecco qua, va meglio adesso. Ma io per dire il focai ce l'ho fermo roba di 5 mesi, 6 mesi, ogni tanto lo attacco e va sempre bene. È strano, 3 mesi non sono tanti, se che mi dici 2 anni, ma 3 mesi non sono tanti. Il microfono che c'ho è vecchio, capito? Non cambia il microfono. C'è il dopo pulsi, lo sai che va per i fatti suoi. Non come lo si vuole, guarda, adesso l'ho montato, guarda, sta funzionando bene, c'è una verificazione, a parte i fischi, va bene, ecco, sì. Quando sei sentito da un po' di tempo, da tutto il microfono, ho copiato il microfono nuovo, quindi va bene per il 2009. Vediamo un po' che lo cambio e così torna come una volta nel baracchino. Magari il baracchino c'ha pure il microfono, capito? È molto tempo che è fermo, poi ha avuto un sacco di ritmi, non sai com'è. Si tira di usi, dopo quando sei un po' di tempo che sta usando è ancora peggio, si mangia tutta la cosa che c'è all'interno per condurre, quindi è un casino. Come dici del MC60? No, non me la frega un cazzo del MC60, no, non me la frega proprio niente, non del buio. Ma non è che se non regalo la luna e voglio di quei microfoni. Se prendo le 25-40 euro e va benissimo. Meglio del MC60 per me, la verità. Poi ci pensa quello che vuole, esempio che io ce l'ho pensato per il MC60, cosa me la futti? Con 40 euro esco, ma esce bene, esce veramente bene. Questo fa la lucca benissimo con Kenwood. Meglio spendere 40 euro e spendere 100. È la stessa resa, uguale. Sì, ma c'è quello che hai fatto? Uno, il MC60 è l'altro MC5, eccetera. Uno di una linea e l'altro dall'altra. Ma non è che ne fa niente, dai, già lo sai che tu. Usciva bene lucca, non mi dire che usciva male, là. L'unica cosa che devo implementare è che già si può fare la modifica, basta aggiungere un cappetto in più e prendo il cappetto e lo alimento con la meditazione dell'apparecchio, non ho fatto molto salerta, però va bene, dai, non è, con la tempo famiglia lo sai che va bene questo, lo sai, più di me. ho usato l'M60 tutto di più di più di me. Quando l'ho comprato usavo la limitatura e quello da di ciacca della vita G e non serviva niente, uscivo male. E quindi ho dovuto comprarmi in Salerta, avevo fatto 100 medaglie, allora io, perché ho 100 medaglie, e mi ho bloccato con la panica, con il microfono lì, mi ha attaccato là, mi ha detto, ci va benissimo. Non si avvicina la telecamera con tipo il microfono, là. Purtroppo è così, non posso farci niente, non è che, non so che la mia cosa mette in per dire, l'M60, l'M80, quello che ha alimentato di su per fare la linea completa, il sottoparlante, quello che sarebbe bello la verità, però non devo fare cose spettacolate io, no? Non posso farci niente. No, volevo dire questo con la scusa degli altri, è che con la radio che tu si attanta, io lo sai che l'ho trovata io, no? L'ho trovata però 13 anni fa, mentre a Luca il 140 che aveva, che era il mio lo stesso, gliel'ho dato molto, l'ha tenuto molto, diciamo. Quindi in quella radio ti ho detto da tantissimo tempo, portamela che vi faccio gli aggiornamenti. Se tu a quella radio non li fai gli aggiornamenti, quindi non la metti sotto strumento, vedi se le tensioni del VCO sono rimaste giuste, se il PLL, le tensioni sul PLL sono giuste, se l'LC si è spostato, se ha qualche aggiornamento da fare, qualche cosettina da fare, si fa e sono sicuro che non ti fischia più, perché quel fischio che tu hai quando sollevi il Salerta è derivato dal fatto che sicuramente l'accordo che c'è sul processore e sul microprocessore dell'autocontrollo gestito soprattutto dall'LC con lo slider del Mickey Gay non sono più conformi, quindi uno sta andando a destra, uno sta andando a sinistra, vanno riallineati, perché così 80, te lo posso garantire, negli anni che l'ho usato io faceva scoppiettare il culo anche al grillo, perché la modulazione di quella radio doveva essere simile a questa, simile a tutte le radio che sono passate in mano mia. Se Luca andava bene con l'MB più 5, con l'MB più 4, è perché quella radio è stata allineata sotto strumento e fatti gli aggiornamenti che dovevano essere fatti. Tu aggiornamenti in quella radio, sono sicuro, non ne hai mai fatto, a parte averti messo la scheda BIP, che è una cosa che si può fare, l'hai voluta, te l'hai messa, eccetera, ma i veri aggiornamenti di quella radio vanno fatti sotto strumento, quindi sotto oscillatore, sotto strumenti da laboratorio che vanno fatti. Sono sicurissimo, non ti fischierà più, avrà una modulazione molto più corposa, con tonalità medio-alte, medio-basse, giuste, e uscirà molto meglio, secondo me. Questo è quello che la mia esperienza ho vissuta con quella radio, che le conosco, anche se le fai a pezzi, le posso rimettere e assemblare come quando vuoi. Altre no, ma hai che vuole sì. Quindi sono sicuro che quello, quindi te l'ho detto già l'altra volta, portano, non si rapini, se ne vuole un'altra te ne vuole un'altra, si fanno gli aggiornamenti, si prova un MB più 4, un MB più 5, si riprova con l'MC60 qua da casa per vedere se la modulazione mia è compatibile con quella radio, se è andata insomma fuori frequenza, si fanno tutti gli aggiornamenti necessari, perché quella radio essendo vecchia dovete capire che non è, le metti lì e funzionano eternamente. Io sui chiamoli ci lavoro molto spesso, adesso sul 430 che ho ripreso già tavolo, non c'è da lavorarci perché è partito l'oscillatore, per poter rimettere a posto l'oscillatore bisogna mandarlo in continente e farlo cambiare, ma a me non serve perché ho 440, quindi uso il 440 10 metri e 11 metri, però quella che va bene in AM c'è da fare gli aggiornamenti, Antonè, quindi bisogna fermarla un attimino, quando voi me la porti io mi faccio dare lo strumento da casa, me lo porto a casa, me la apro, me la controllo tutta e le faccio le cose che vanno fatte per renderla un pochino più insomma piacevole il 27, visto che tu la usi il 27. Allora, microfono per Giuseppe. Giuseppe, non mi dici? No, non sono addormentato, stavo ascoltando. Riprendete voi, no, non ci sono problemi, no. Riprendete voi. Stavo ascoltando, no niente, volevo da Campidoglio che non c'era problema, se vuoi venire a passare, se vuoi venire a casa per guardarlo non c'è nessun problema, Capri. Sì, quando sarò da salire al supermercato, ho messo che è anche più vicino, hai capito, che era vicino anche prima, vabbè quando salgo, ma anche nel pomeriggio che lo posso andare a portare a Claudio la lezione di organetto, così lo guardiamo. Ma è un bel apparato, visto come si chiama il manuale, non dispiace, ma poi con calma te lo metti in funzione, mi puoi anche usare, capito? E così sei più attratto. No, per quello non mi interessa, con i vettori per la curiosità, bene, il modello è quanto vieni, ma non poi si vedrà, per adesso mi va più che bene così. E c'è una recensione, non mi sento un caso che è la fine del mondo, ma sono questi apparecchi che uno è superiore all'altro, non tanto il cappello per il primo, per gli aesi, per lì, per gli altri ricco, però ognuno ha già, diciamo, la somma della manica e riprendi. Sì, vediamo se già Neuturum si è ripreso già. Gianni, non ti addormentare. Mi è venuto un dolore che c'è la cuscia, ma come se fosse un crampo, mi cazzo roba. Stavo cercando la posizione giusta per farmi passare il dolore, ce l'ho fisso. Anche a me viene, nel dentro del letto sei? Anche a me viene parecchie volte, e devo girare fino anche a me, quando ho fatto il computer, non posso dire quello qualche film di Tottoni, qualcosa che non so se mi vengono. Che tu hai problemi di film porno, tra i coglioni, ti fa male non la gamba quella lì, la gamba di mezzo si allunga. Di solito ai maschi ti viene la mattina presto, verso le 6 e 7 mesi, si allunga l'attrezzo e ti alzi così quando vai in bagno, ma te invece di notte che ti viene questa cosa, l'unica cosa da curare è una bella bambola di stoppa. Pure, ma fa il culo, la verità. Come mi ero qui da stamattina, tagliare, due fritte da poleare, mamma mia, tanto ricordare me ne voglio, ci dovevo uscire, perché non c'avevo macchina, era all'epoca, andiamo con la moto a lavorare, purtroppo adesso... ripeto, con un treccio mezzato, mi viene anche a me quel caracolo, beh, sto dormendo già con la coperta elettrica accesa fino a una certa ora finché non riesco a riscaldarmi, e mi sento poi un po' a mio agio, però diciamo, se non c'è la coperta elettrica, a andarci dentro, io pigiama non ne metto, non ne ho mai capito, andarci così a primo approccio con un letto freddo, no? Poi buttando vedo. Riprendi qua. Ecco già, ma se tu non ti metti pigiama, sì, dormi lungo naturalmente, quindi la mattina quando ti alzi, verso le 6, 7 e mezzo, metti il caffè, è meglio che ti metti la macchinetta per abbassare quella terza, non mi... Attenzione al culo però, eh. Ma come è fissato, semmi? Quello che fu... Ok, no, me ne metto anche le pigiama, ma me ne ha comprato anche un altro gioco, pure il più leggero, forse quello, però quelli che ho fatti non li sopporto, perché poi occhio al culo. Quello è fatto, niente, c'è la coperta elettrica, mi ha dato benissimo, mi ha dato, però c'è tanto proprio che la spengo, a far volte che con tutto il mio giro non si dà qualche corpo che ti trovano fulminato nel letto. Come che piglia fuga, la bilivo. E sai che domani che Pompone oggi mi sta facendo ridere. Poi viene il... Lecco, me. E ti lecca tutto, me. Giuse, dimmi tu quando ti alzi la mattina, non ti alzi con la temperatura alta? Beh, io mi alzo come sempre con la tua bandiera dritta. E quindi cosa te ne fare il pigiama, non lo spieghi? Se uno si alza così, anche peggio, se c'è una ragazza ospite che ti prende con questa cosa così, cosa fai? Vai in bagno, aspetta, qui faccio mal di pancia. Perché non ha debito d'ago e si deve scivolato. Faccio portare il cane Lecco, ho già. Mi faccio portare il cane Lecco e me la recca tutta a me. Dio mio, un po' di conteggio, Leonci. Se c'è queste perversioni sessuali, tieni, te ne conto. Ma come, quando mangi cioccolato è peggio me. Cazzo. Vabbè, non lo metti in dubbio, ma... ah, io che se la fa leccare da un cane. Vedi che devi avere coraggio, me. Se tu finisci... Vedi se lo spalma. C'è adesso lo scontro lì dallo spin. Prendi il... Ma non... Sono un nome strano, Rita. Su tutti i repiti di cioccolato sono due palline solo, quindi capace che qualcuno se ne compra e posso gli avere le palline, quelle di miniere, diciamo, là. Si spalmano le cose con pannello con cioccolato. Come fanno da clinici che gli spalmano l'uovo. In questo caso che potete mettere nel frigo, mettono lasciano fuori, c'è lo spanno di cioccolato. Ecco, a voi, Leoncino, no. Chi è? Per carità. Ma sinceramente, va, a ratto e cioffre stanotte. E tu non ci di notte, c'era una tipa a casa che era pisciata. Ma non mangio, ma c'ero io. Ma pensavo che era Giovanna, mi stessa seduto, ma da casa tua si è parlato a Maracchina? Ma perché non ha detto nessuno? E perché? Io sto a casa mia, c'ho solo io, ho letto, vero? Ti ha pensato che era a casa mia, Giuseppe. Stai parlando qualche ragazza a casa mia. Non solo lui, tutti pensavano che fosse a casa tua. Serena si chiamava. Ho detto, pare se una regatura che non ha a me a casa sua. Io ho portato finato, donna c'era parlato, sentivo, mi sono andata a c'era una donna stasera, ho sentito, portato finato giù. Stasera sorella Giovanna, che è entrata a malattia, infatti l'ho fatta sentire a Giuseppe. Ho invitato magari che pensassero che fosse, siccome già è successo una volta, quando abitavo in via Vitrebu, che parlavo io e mia sorella, e poi entrava la nipote di Giuseppe Altamura, che dopo gli appuntamenti aveva probabilmente del mattino alle 9, che andava a fare ciucucù, no? Quindi a un certo punto ho dovuto chiarire. Dice, è entrata sotto la sorella e mia sorella, anche lei è entrata, c'è mezzanotte, ma tu sei mago, dice, lui c'era la nipote di Giuseppe Altamura, e ci ha dato a casa. E poi andava all'appuntamento e andava a fare le crociere con i ragazzi a baracchino. Ecco perché, la sera non era cosa di Giuseppe, ha detto guarda che Giovanna, ha detto, la verità non è entrata, non c'era, detto ieri, non è anche venuta, poi ha detto, stasera, infatti ho potuto entrare a baracchino. E lì, ha detto, è entrata a baracchino, ha detto, perché ieri sera, cioè, dice, c'era la tipa, dice che pensavo che fosse, siete un tipo, tipo mia sorella, gli ho detto, a un certo punto, quindi, non devi dare problemi. E niente, almeno sento una voce che è diversa, magari qualcuno è stata qualcuno che è entrata a casa di qualcuno e mi ha preso per il culo a tutti, questo non lo so, la casa di chi è entrata questa ragazza. E quindi, l'ho portata a Giovanna stasera, la baracchina, per un attimo lì. Prima già stava già entrata, saltato tutti, era tranquilla e quindi no, non c'è problema. Quello lì non lo so chi sia, mi ha detto che si chiama Sabrina, non so che cosa, bro. Io ho mai sentita la verità, la ragazza c'è stata per la chilometra, Sabrina proprio non me lo ricorda. Serena si chiamava, non Sabrina, Serena. Adrice, Serena sì, ma Serena no, Serena una volta c'è stata. Tu cosa ne pensi? Mi sembra che sono abbondurati il 150. Oh, dove c'è da Claudio? Oh. Vai, io riprendo, vi saluto e vi auguro a tutti la buonanotte e ci sentiamo alle prossime. C'è Antonello, Giuseppe, Gianni Opilum, Gianni Caprilue, Antonello Alessio, mi sembra aver sentito anche a Gianni Giaguaro Leitri. Una buonanotte a tutti, alle prossime, trattemi bene, avanti a chi tocca. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Sognidoro e Bruto Dottor Giovanni, oggi ho queste due macchine vostre, le siamo qui giù, sono andate a fornire alla ESO, ma hai capito qualche un paio di tre colleghi, due macchine di quelle rosse, che mi ero dimenticato di dirtelo. Ok, non come tica, non so chi c'è, io mollo, poi fate venire avanti il break. Ciao, ciao, grazie, andiamo alle prossime. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Ciao Cla, ci sentiamo le prossime. Tutto a posto, è barrato. Quindi infatti vanno fatto a pezzi tutti quanti questa ragazza. Questa ragazza qua l'ha pigliata per il culo a tutti quelli che c'erano nel canale. Fuori grabo. Tutti convinti che era casa mia. Se fosse stata casa mia sarei stata anche io, te lo sto dicendo. A meno che ho fatto la brasiliana, o pure per sé. Ma va bene, meglio così. Sono contento, a me lo si festeggia. Avanti, ti pigliate da Giuseppe, vai di là. Ciao, non mi ricordavo il nome, adesso me l'ha detto Gianni, adesso me lo sto ricordando, Serena, no Sabrina, Serena, hai capito? Che a noi, ti ho detto che ci conosce abbastanza bene, a me, a te e altra gente, conosce abbastanza anche verticale. Non credo mi si conosca a me, non ti preoccupare. Cioè, sono andato a baracchino, l'ha piato per fornire a tutti, nuda nuda. A meno che non sia arrivata la famosa ragazza che doveva passare servizio, che non conosciamo a tutti, quando aveva gli appuntamenti, cioè ci avevamo l'appuntamento a venire per Italia, veniva a trovarci, ci sputanava. A meno che non sia arrivata quella, Lisa. Amica di Gianni, raga, mamma mia quanto la odiava Gianni, guarda di come già. Mi diceva tutto, mi diceva come l'ho vestito, e cosa c'avevo dentro la macchina, mi ispezionava anche la macchina, cosa c'era dentro la macchina, ascolta, me lo regali quel pupazzo che c'è in macchina, che mi piace tanto, anche quel baglione che c'avevi mi piaceva stasera, cosa c'era tutto un grande dirigia. E io non ho mai capito che cacchio è. Io invece l'ho conosciuta, perché sono andato via a Centro Studico e mi è stato proprio il peso, aveva l'alimentare lì attaccato dove lavoravo io, figurati. Dove c'era, dove abitavo io c'era il supermercato, quindi alimentare, lì figurati un po'. Quando l'ho conosciuta è sparita la 52 è entrata, è sparita proprio. Non è più entrata a Barattino, dalla figura di che l'ha fatto. Siamo andati in quattro a trovarla, eravamo io, Roberto, poi c'era Fantomas e padre Francesco. Lui era craccata, che abitava lì all'interno di quella via di fronte a dove abitavo io. E c'era la bomba nella camera da letto, dove c'era dietro all'interno. Tu, padre Francesco, sei entrata. Figurati. Pronto? Scusa, sono andato a provare. Pronto? Pronto, avanti, avanti, pronto. E sono andato per salutare, saluto anche Claudio che ho visto che è uscito. Giovanni, invece di qua, ti saluto, buon proseguimento. Ciao lì, l'amico anche di Muros. Ci ascoltiamo, proseguite pure, già, sentiamo dopo magari. Ciao Gianni, mi hai sentito, eh? Se vuoi restare siamo qua, non c'è problema. Se no buon acqua e segreto, berriti che fai, non c'è problema già. Se vuoi siamo qua. Avanti. Sì, Gianni, ci sentiamo dopo all'interno, senti, no, non c'è problema. Si stava parlando sotto Gianni avanti, che mi sembra Gianni di Muros. Ciao Giovanni, ben sentito. Per caso ci sentiamo più tardi. E c'è la polemica, quindi ci sono anche donne che parlano. E non mi l'antenne si addrizza. Stavo cenando e ne ho sentito uno, infatti ho chiesto, ho sentito, c'era un altro che però diciamo, mi sembrava e non mi sembrava, però mi avete confermato che stava modulando forse era una ragazza. La sorella di Alessio è sposata con figli. Aspetta, si vuole che cazzare per l'altro? Non ti ricordo direttamente lui, e l'altro lui dice, ma ieri sera a casa tua che c'era, il cazzo ha detto, ma ha detto, casa mia, ieri sera, era con il cappelletto, non c'era nessuno, e mi stavo mettendo la riga, mi stavo scoprendo la riga, ma è trovato, si ha detto, ieri sera vanno a casa, dice perché c'è, chi è la tua sorella, ha detto, no, la sorella è quello che viene stasera, infatti quando c'era lui non è venuto, lui fa dopo un'oretta, ma quello che infatti l'avevo fatto, ho detto Giova, stavo parlando un attimo perché dice c'era una, gli ho detto l'hanno presa per te, pensa che fosse a casa mia, infatti è stata la macchina di Giuseppe, gli ho chiesto un controllo stasera, non per altro, siccome Giuseppe stava già dice mi ha parlato così, così conosceva quello, conosceva quell'altro, non si chiamava così, e ho convinto tutti, mi stavo dicendo Gianni poco fa, che era a casa mia. Io le due volte che avevo pigliato ieri notte, è stata a casa di qualche civile che conosceva, istruito da un'altra persona. Dice, dili così, dili colà, e questi ci cacciano. Infatti così è successo. Tutto lì. Sì, ma ci ha messo allegria nel canale, siamo divertiti, dai. Non ci ha abitato Balbu, ci ha fatto solo divertire e basta. Il camper che sono di Sassari, dopo che erano fermi via il distributore della Fabo, c'erano il baracchino nel camper e poi c'è stato qualche chiacchierata, ma minimamente mi ricordo come si chiamano, erano di Sassari, però io diciamo da sentire dove il frattempo sono da parecchio tempo, a parte qualche volta con lì che tra Giovanna, che come avete sempre fatto, però sono tanto tempo che non lo sento più. E non da molto per l'Elena, non te la ricordi Elena? Sì, no, ma c'è gente già quella di luce del mattino era pericolosa anche perché siamo adesso, per dire, perché faceva sollevare la luce dei bambini anche quando ho parlato, e questa voce strana, ciao carissimo. Ora la prima volta ne parlava. No, tu ricordi male. Siamo tutti la luce. E io mi ricordo, non dirà me cosa di te. Qualsiasi tipo che entravano, cazzo di mano, ma questa chi è? E tu guarda, è una vecchietta, è tornato un tasto. Era la moglie di un trippido. Cazzo in verticale, hai attuato quel piso, sono un aiuto, uno dai esatto, però non mi ricordo i nomi nativo, nome, ci aveva, lo so che cosa, mi sembra ci aveva all'epoca una Ami, ti ricordi quelle macchine Ami già? Itria sarà stata, no, ma Itria non c'era una Ami, c'aveva una di quelle macchine sportive, quelle basse. Comunque non c'era solo luce del mattino, non faceva una voce, c'era anche Pinuccia, mia cugina, che era uguale. Una baracchina che faceva scendere il latte in terra. No, no, Pinuccia non me la ricordo. Ma luce del mattino mi è rimasta impressa. Fiocco di neve, luce del mattino, marina, poi c'era coso, come si chiama? La moglie di Battimora, l'ex moglie. Graziella, se parlo. Ce la ricordo. Vabbè, Graziella era la prima che facciamo le cose con la storia lì comunque. Poi, ma ci sono state parecchie altre ragazze a baracchino che erano tranquille. C'è chi c'aveva anche la voce dolce, ti faceva innamorare, per dire. Poi non lo so, c'è stata anche la ragazza di San Giovanni, poi c'era onda di Putti, ti ricordi che adesso non sta più entrando, anche se sposata, ma la chiesa c'era sempre, per lassù. Quindi Fabiana, per dire che sono 7-8 anni, quando mi sono più fatto non è entrata. Non andava qua vicino, parlavo solamente io, se ti ricordi bene. Poi Roberta, Katie, sono sposate anche quelle, non lo so. Comunque sia, ragazze con la voce bella c'è stata, anche belle ragazze, la verità. Non brutte, ma belle. C'era quella che aveva una voce bella che faceva schifo, quella che non sei neanche tu. E invece c'era quella che aveva una voce brutta e invece era bella di persona. Ma tu non te lo ricordi quando avevo 18 anni, Ari? Sapete che parlavo con lui, Raggio di Luna, Carmela e Icchia, non so se li hai nominate. E a voi? Ma la roba la usino. Il tiretto. Non me la ricordo. E vabbè, a parte il tiretto, ma c'era anche c'erano delle ragazze che mutuavano non la provare, e la provare c'erano, sì, esatto. Provate a chiamare a Luca se c'è ancora. Luca, dormito Zemi, Kappa, c'erano un bel ragazzo. Poi io quando avevo 19 anni ho conosciuto parecchie e anche fatto belle storiette. Quella di provare una si chiamava Bruna, lui ha fatto anche Lucia che mi durava qualche maniera, e tu? La giovane, ma ogni volta di Maria Mano, naturale, poi non si diceva la buonanima di Coso, di Paola, che è stata con un attimo di Margherita, la sorella San Gemini che si chiamava Lucia, e poi altri, anche da Pula ce n'erano che modulavano, come però, sa comunque, da mamma c'è un coso, un bambino a casa da mamma, da papà, un quaderno con tutti i nomi attivi, anche da Pondannaro, entrava Pietrino, che è mio parente, parlava la moglie, tutte queste, però se trattavano di, sì, 25 anni fa o più. E poi ti sei innamorato di Falcone. Quanti anni? Ma che fine ha fatto con me? Mi preoccupandosi. Cosa c'è? non ne so, la metà penso che sia quella più, ma sono ammazzata la sorella. E voi ti do il numero, Gianni, che era molti, se lo vuoi il numero di fatto. Gianni, che era molti. Sì, come una donna qui che lanciava la lampada, già non avevo più di ricucciaita, ma non mi credo che era pronte. E dammi il numero che ti faccio, ma quante volte? Se ce l'hai davvero, taglielo che pensa di telefonare la madre. E quindi ho fatto entrare la baracchina, già l'ho visto, dopo poi fatti sentire la voce in modo che sai che non c'è congelata, non sei male, non so se è la casa mia, Infatti, aspetta, casamento, ti avviso subito, non è che sia una cosa... Lo scherzo è uno scherzo, poi ti dico chi è casa mia. Una ragazza. Te l'ho fatto sentire perché c'è... Cioè, infatti, non parli le contrarie quando pensavi tu ieri. Anzi, te l'hanno pensato tutti magari. Adesso mi è venuto in mente la storia di... Dalle coppie di Giuseppe Altamura che andava a gli appuntamenti a tutti i cibini, non è stato preso l'entrato verso le 9:30. Ho sentito la tua nipote in faccia a mia nipote. La mia nipote, chi è mia nipote? Si chiama così così. Antonella, mi ha dato appuntamento per stasera alle 2. Io guardo, sarebbe già voi da me, ho detto. Telefono a fianco, chiama a fianco, mi ha detto che c'è tu uno. Si chiama Giuseppe, tu vieni, è la nipote, se vuoi uscire con lui, tu dici, cosa mi ha fatto a me, gli ho detto. E capa, uia. Uia, vabbè dai. Oh, signore Belli, io vi saluto, vi auguro una buona notte e una buona giornata per domani, dai. Ci sentiamo domenica mattina per quella questione, dai. Verso le 10, dice qualcosa. E vabbè, non c'è problema, adesso... Non c'è problema. Dormi tranquillo, poi ti sistemo con la gente, con l'apparecchio. Poi martedì andiamo di là, e me lo spieghiamo bene. Ti trovare qualcosa, che c'è una volta buona. Speriamo, va bene, dai. Ciao già, ci sentiamo. Io, ciao Giuseppe, buonanotte, dai. Che posso, sono io. Allora, dottore, come andiamo? Adesso mi ha fatto ricordare di quando avevo 19 anni che... Ehi, se me ne ricordo un bel roba io. Ma era perché ti ho conosciuto, a Bracchino, eccetera, eccetera. Quindi vivo da Dido. Una luna è stata. C'era Violetta? Sì, certo. Anche ma non avevamo voluto, siamo a questo. Abbiamo fatto fare Giuseppe Altamura la selezione per Miss Italia, poi quel coglione mi ha detto, se vuoi essere prima devi mollare il paccioccio, ho detto. E gli ha detto, ecco, farà cosa, ma fa un culo. Ha sputato la nuova Sardegna, ha piatto, non l'ha fatto neanche passare. Mi sembra arrivata a 4 o 5, non mi ricordo adesso. Ed era passata un'altra foto sua. Quello me lo ricordo sempre. Mi hanno fatto mettere le tette finte, cazzo. E perché non aveva, perché non ho visto nulla io. Io non so quella di cosa aveva fatto una volta. Io ero in macchina, stavo modulando a Sacro Cuore lì. Questa qua mi apre lo sportello della macchina, si posa in macchina mia senza agonisce, senza nuda, e comincia a togliere i bipeluzzi dal golf. Ha detto, chi sì, come ti chiami? E io sono Violetta, quella che muda dal baracchino. Ascolta, non è che ti posso chiedere un favore, dimmi. Non è che mi puoi prestare la macchina che mi serve stasera, cazzo, senza agonisce da pulire la macchina. Violetta le ha fatto di cazzate. Ma cazzate ha fatto quella poveraccia. E poi è finita anche male. Ui. Forse è stata l'unica che ha fatto quella vita, per la verità. Tutte le altre che conosciuto a Baracchino erano tranquille, ragazzine, gli piaceva divertirsi, andare in discoteca, vivere, eccetera, eccetera. Capito? Non ne faceva nulla di stare che le ha fatte a Baracchino, non ne poteva proprio l'accidente. Faceva divertirsi, andare in bar, ai circoli per dire, allora è diversa la cosa, ma non come adesso. Biancaneve te la ricordo. Sì, anche quella me la ricordo. Tutto me la ricordo. Però mi faceva le poesie. Sì, certo, non te lo ricordo invece tua cosa, la nipote di Giannina. Ah, dopo un giorno è stata a Baracchino, ho fatto un gabacacco a raccontarmi certa cosa. Non mi ricordo adesso, neanche sapevo quella di tua nipote, figurati tu. Margherita, capo a fila 3 mattino a dirmi basta le lettere, non me la mandi più. Stanno in gamba. Passavi anche la serata a ridere scherzando, perché anche l'altro giorno, anche ieri, quando è entrata quella lì, ci ha fatto, siamo stati bene, là. Ci ha fatto, ha riattivato il canale, sarà perché l'uomo è così, avevo godiva, girarci attorno, stavano facendo tutti i galli, a me mi ha chiesto se ero sposato, ho detto sì, e ho anche due figli, allora non mi interessi più. Poi si gira, mi chiama, amore, ascolta, ti fai trovare al bar sotto casa di Alessio. Ha fatto male proprio. Questo ti viene in senso, ma... A 6.50 la bottiglia di vino, ma qui ci sono mette spine, mi fatti in buccia. Sì, ma io ho detto, guarda, si sta così bene a letto, non mi muovo da qua, sto bene al calduccio. Insomma, deve essere entrato la casa di qualcuno, gli ha fatto a pizzi, senz'altro. A me gli ha fatto dire stasera che Giuseppe non era... Cioè, mi era convinto che fosse a casa mia, la verità, era come tratto. Ho detto, dice, posso fare la casa tua, Giuseppe? Ho detto, c'è mano Giorgio venuta. Si era convinto che fosse lì. Un altro. E poi guarda, ha detto Giuseppe, se entrano anche ragazzi da casa mia, te lo dico, perché non sono tipo nella scuola di tiro che è casa mia. Quindi si è andato male, gli ho detto. E c'è stata questa, dice così così, mi ha detto, dice tutto di me, voleva salutare anche a te, mi ha detto salutate, gli ho detto, boh, e tu la verità, questa non me la ricordo, gli ho detto. Mi ha conosciuto tante e ho detto Baracino, mi ha detto, ma non ricordo me, questa qui, la verità non me la ricordo, ho detto, comunque sì, ha detto, sai, dove sei entrato, la prossima volta, ha detto, dopo ti ricordo. Saluta, sei viva, sei morta, se la vedo, ci abbraccia, dopo ti ricordo. A meno che non vada bene, ho detto, per telefono da tutti, si è divertito e basta. Mi ha fatto divertire anche a lui. E non sai cos'è, la prima cosa che sentite è una voce che la stava suggerendo, sembrava la tua, dico la verità, sembrava la tua voce. E infatti io subito da lì ho detto, buona giugare, giugare. E però il segnale arrivava a Santiago 1, capito, un bel bassa. Lì diceva di parlare a Sassari di Vecchio all'inizio, però il segnale 1, sia a casa mia che a casa di Luca, era un po' troppo basso per Sassari di Vecchio. E allora abbiamo pensato che tu avessi magari girato la direttiva, capito? Io ho pensato così perlomeno, anche per abbassare il segnale. Ah, oh, tranquillo, tranquillo, se a casa mia sei da te, ho sono di qui. Ma a me mi ha fatto dire Giuseppe che era convinto che fosse qua stasera. Era convintissimo qua. Mi stava parlando da casa mia. Che fosse Giovanna o qualche amica che c'avevo io, qualcosa di altro. Guarda, la cavetta gli ho detto io, però io non sono entrato. Ci avevo detto, ma di ginocchio stavo calzando, ho detto. C'è stata questa qui così, così, così. Guarda, ha detto Giuseppe. Quindi ho detto, guarda, se aveva avuto voi, ho detto, se è entrato, ho detto, ma l'attimo è andato a divertirmi anch'io, perché mi ha preso per rifornire a tutti, ho detto. Ma non sono entrato tutto quanto, ho detto, sono stato tutto il giorno a letto, ecco, ho detto, stamattina, sono uscito, ho detto, stamattina. E fa fare la spesa, ho detto, di che altro? Ho detto, se è entrato, forse una volta, ho detto, se la sento la voce, posso anche riconoscerla per dire. E ti sono detto, chi è? Ma, deve essere entrato a casa di qualcuno, ho detto, suggerito com'era, mi ha pigliato per rifondere a tutti gli altri. E quindi sono tipo, vado, lo scherzo è stato bello, posso parlare per 10 minuti, 4 ore, 20 minuti, dopo di certo ti dico che è la mia e basta, non è che diventare una ragazza da casa degli altri così. Poi chiamava tutti amore, a Giulio, a me, a Grob, così lo facevo contro l'Isa. Vabbè, se ti chiamava amore, è buono. Quindi, amore ti ha fatto divertire un pochino, almeno quello. È bella per molto ripetere, se entra una ragazza, sta per quello che entrano tutti a macchina, anche i morti entrano. Se ne suicidi come i funghi, come entrata lì, tutti canti, via, 1, 2, 3, 4, tutti quanti si scendono. Sì, ma è così, te l'ho detto io, se tu ci metti un paio di ragazze a baracchino, ci metti anche a far fuori per dire adesso, firmati a Tiziano e Baratti da Falcone per una settimana in prestito, ti sto dicendo che si rientra dal 27, torna come prima. Il discorso ci manca, la nascosta ci manca, capito? Come per dire, quando uno è malato di cuore, ci vuole dire di una scossa. Se ha un malato di cuore, dai, una ragazza nuda, la voglia si solleva pure un solo l'altro, ti passa tutto. Adesso lo chiamo, domani ci passo la Falcone e do il baracchino. Ma non sai dove abita tu, fra? Sì, è in via Marina qua, da fratello. Via Marina dove avevamo il negozio noi, quello che poi abbiamo chiuso. No, fratello, la sorella mi sembra che sia. Allora, no. Mi la me. E chi è? C'è il mio personale. Hai visto dove c'è la... Serena, Grandi. Sono loro. Sono famiglia dei 5 anni. E non peraltro, perché il segnale qui è abbastanza alto, 9 più 15, chissà di dove. Mi è stata Serena, a me Gianni. Attenzione Serena, ci sei. Che tesoro che sei. Mi fa veramente piacere, dai. Anche io ti saluto, ti mando anche un 88 di simpatia. Sei appena entrata, ieri hai allietato tutto il canale, resta anche stasera faccio compagnia, sono in compagnia di Franco e anche di Barracuda, avanti Antonio. Volevo venire al bar a prendermi il caffè, invece vabbè, non fanno. Stanca, stanca, già mi dispiace per te, ma non faccio niente. Comunque intanto se l'ha detto, io sono a casa mia, pensavo che fosse a casa mia parlando, e invece di eravate a fronte. Antonato a fronte. Antonio, quanto ti arriva a te? Lui mi arriva quasi 9:20, se non vuoi sapere, non è Sassari, è fuori. Scusa. È sicuro Zocco, ma un bel però. Deve essere anche molto lontano perché qua arriva a bassa di segnale. Vabbè, Franco, riprendi, mi stavi dicendo perché te non sovramodulato e non ho capito dov'è. Cazzo, ma a me io sento che stavo modulando, però non la capisco. Comunque se mi senti ma non sento. Ti stavo dicendo che vedete dove avete chiuso il negozio. Più giù scendendo verso il mare, sulla sinistra c'è il marmista. Proprio lì dentro, dove c'è il marmista. E deve essere roba loro, perché lui è figlio di quello della Marmarma. Scappa, e la sorella lì c'è. Ah, lavorano anche lì. Scappa, abitano, hanno una casa lì e ci lavora il marito lì, no? Il marito non mi sembra neanche sardo. Ah, è quello un po' robustello. Ehi, capo. E boh, che confession, mamma mia. Una volta sono andato a caricare dei marmi e non me ne voleva dare perché c'è che poi arrivavano spaccati, perché ci vuole il camion adatto, insomma stavo trovando un bel di storie per farmi prendere il mezzo loro per pagarlo, capito? Ecco, sì, vabbè, io una volta sono andato per farmi una storia e mi ha fatto tante storie, cioè, sono andato e me l'ho fatto da un'altra parte. No, no, è una persona un po' così, di chi si tronca i brutti, ho capito, e chi è? E le ho passate il principale, perché mi aveva mandato il principale a prendere questi marmi, che erano per fare i gradini nelle scale che ci sono lì a Plattamona, nel bar, ce le presi. Il bar, ma quale però? Bar Tabacchi, quello dove ci abbiamo il negozio noi, tu ce l'hai presente dove c'è Pietra, dove c'è la discoteca Pietrafitta. Sì, ho capito. Quei gradini, il marmo, l'ho portato io. Il mio principale gli ha detto, ascolti, le faccia una cosa, si prende i soldi e gli dia la roba che gli deve dare, e poi se si spaccano non si preoccupi. Una musica che sono caricati, che vanno via, che colpa mia, se si rompono, lui non sa che fai. Invece, per sua sfortuna, un operaio suo caricandolo me ne ha spaccato uno e mi ha detto, otto, ti do la colla, glielo dice Murato di incollarlo, già non si vede, cazzo non si vede. Io gli ho detto a Murato, mi ha detto, oh, se si ne avvisa, non so più niente io. Vabbè, là, gliela mettiamo la colla, però non è mai come quando è nuovo. No, si nota, il marmo spaccato se lo si nota. Io l'ho fatto più che altro per tappare quello che era un'opera, io pigliavo un gacciattone, capito? Ecco, allora ti arrivo. Sto con Serena, Serena. Così sono due sereni, così. Arrivare voglio buttare a me a rubare. Ti spiaggiuto se, eh? Ti hai pigliato una cantonata. Cantone. Perché ti ha fatto pigliare per il culo una donna che ha allucinato ieri sera. Voi testa, tutti convinti della casa mia, non va già entrata adesso me. Se no magari questa parte che è la casa mia. Alessio, non fare doppio gioco. Io non faccio nessun tuo gioco, non lo sai, anzi mi metto a ridere. Vi siete fatti prendere per i fornire di una ragazza di penso sia 35 anni, 40 anni, non di più. Mi ha fatto appetti tutti, in teoria. Quindi, oi. Comunque meglio così. A me ho cominciato la serata. Cosa mi devo dire? Mi andrà bene, va bene. Sono contento. Ne ha 44 e non ha preso più il culo a nessuno, perché noi siamo divertiti. A me non me ne ha fatto nulla di andare né a rubare né di farmi chiamare amore da Edda e né nulla. È fatto davvero che gli ho detto, ma mentre mi sei sposato, gli ho detto sì, ho anche due figli, non me ne sono vergognato a dire. Vabbè, non ci sei venuto qua stasera, mi fai quello, sono con Giuseppe, tocca strada, Giuseppe è fatto quella trova. Fatemi una cosa, ma chi ha casato ieri sera, mi ha detto? Chi ha detto? Cappa, avanti, fra. Ma, Antonio, non è che gli ha dato un contatto nessuno? E allora, ragazzi, sì. Qualche portatilino. Però occhio, occhio che se si sveglia il doppio rum. Sì, non funziona più. Microfono vi do qui. Ehi, tu male. È il doppio, diglielo. Gappa, gappa. Ehi, vabbè, sono le amiche di Antonello, dai. Sono le amiche di Antonello, si è divertito. Le ha girato la direttiva e ci ha fatto credere che era l'assassino in vecchio. Sì, non male. Ti piacerebbe così lo trovi prima? No, devi subare la cosa, caro mio. Quando rientrano la macchina ti fa l'appuntamento, dici dove e ci parli, e la trovi almeno. Perché è bene che sia a casa mia, non sono sempre un po' ricco io. Quindi purtroppo lo sai, non posso bere di quelle ragazze lì vicino a casa in questo momento. Quindi è un patrimonio fologico diverso, capito? Sono tutti ricchi qua. Ma se la montagna non va da Maometto, Maometto va dalla montagna. La canna ci guadagna, no? Adesso ci bedonali tu. Avanti, fra. Sì, convinto sia ancora detto me. Una volta no. Noi facciamo vedere amiche brasiliane. No, non trovo quelle, già lo sai. Anche cinesi. Cinesi, polacche, di no, le polacche me le comprano in negozio. Solo che mancano acqua quando le metti in mezzo all'acqua. Ho paga. Comunque ci siamo divertiti a parte gli scherzi di sera, cazzo, fra, come i funghi sono usciti di colpo la frequenza piena. Ma da Cipriano avrei stato chiedere, Giuseppe qua mi sta stasera, ti era convinto che era casa mia, ti sto dicendo. Mi stava avendo una video a me, se tu figurati tu, ma cos'è matto questo stasera? Non dovevi che mi faccia per fargli capire che magari questa lì non pensava magari che fosse a casa mia. Mi è venuto la vita, guarda, veramente, no? Cioè, mi ha detto anche di Simona, addirittura mi ha detto, ti passo a Simona, mi ha detto. Se fa così, già ho visto, signore. Sì, è vero, poi ha detto che non voleva parlare al baracchino. Ma lo sai, se parla Simona, offende, io lo sai, dice, beh, grazie, lo vedo per i coglioni a lei. Già lo sai com'è fatta, quindi si riconosce subito Simona, dice, ma cosa vuoi? Quindi lo sai, l'altra volta è andata a Baracchino, come fosse, magari fosse un cili, però è così, fatto stare, è impossibile, cioè, la parte Simona conosce subito, non parla, non è che parla bene italiano, si esprime male, magari uno può anche capire diversamente. No, io mi ricordo una volta che stavano a Andalusia e stavano parlando Patrizia, la moglie di Antonello, con Simona di Belen. Ehi, ci ho filmato di quello, lo sai, c'è un video di quando stava, di quando sto facendo il ciucucciù, fa schifo veramente, c'è una ragione di dire che è quello che è. Ehi, vabbè, chissà quante donne lo fanno e magari non vengono filmate e passano per persone tranquille. Antone, era col ragazzo, non è che lo stava facendo con 1000 persone, solo che quello è stato un bastardo che ha fatto una cosa del genere e bisogna tagliargli la cosa per quello che ha fatto, perché non è giusto, anche se sto parlando da uomo, non è giusto che uno faccia una cosa del genere, per me è un miserabile. Avanti, fra. Ecco, vabbè, la fregata là, abbiamo messo tutto qua e abbiamo visto un po' tutti quel filmino lì. Ma non è la mano che la giudicio, io a voglia l'ho visto, ma non me il tempo. Qui c'è anche un altro, io lo sai, con quell'altro, quindi con il vizio. Secondo te una volta visto quello, come è arrivato, dove è arrivato? Non hai visto anche degli spettacoli che cosa faceva, che toccava il figlio di cosa, come si chiama? In quello spettacolo dietro le quinte. Si toccava il presentatore. E chi per gli puoi rimanere tutti di base, diceva tutte le parti. Perché ormai, guarda, non c'era niente da tutta la Ducaia, non aveva altro posto. Non ha niente da perdere, oramai sputtata. Appunto, infatti visto cosa gli ha fatto al signor Corona. No, carità, ne ha avuto un bel di ragazzi, ne ha avuto un bel in poco tempo. Comunque c'è anche filmato un Corona, già lo sai, adesso c'è la sorella, quindi farà anche lei la stessa fine, è quello che sto dicendo io. Vengono qua per far carriera, capito? Cos'è Argentina, no lì? Argentina, infatti. Che ha fatto fermate con l'ex fidanzato, poi adesso c'era un altro con Corona, quando stava facendo il bocciolino d'India, dopodiché adesso c'è la sorella, quindi anche la stessa cosa, anche la sorella ha fatto le fotografie di lui, quindi automaticamente se ci passa una ci passa anche l'altra, no? Per soldi, quindi ci sono filmati anche di quello, di là anche Corona che gli hanno fatto un furto anche per quello, quindi ci sono i filmati che vanno su internet, perché se che vende lui, lui qualsiasi cosa che tocca fa business, capito? Hai? Mi fa solamente per soldi, fa il film porno, quello che è, fotografie, quello che è, tanto per fare i soldi, il discorso è quello. Ricordate una cosa, se i VIP non sono fotografati, non fanno scandalo, nessuno li cerca, il discorso è quello lì. Quella cronaca. Metto tutti i gossip dell'estate, delle cose. Sì, torna di tutto, c'è, lo sai. Ma se non sono così non sono chiamate, lo so, le avrei viste. Viste quando stavo cercando casa a Cavalier 5 del Cautamper, mi hanno fatto il lavoro, mi hanno fatto la casa, poi voleva dice quando non c'è mica più, voleva volare a Cavalier 5 abitudini, e oggi finora di due. Poi ha chiamato a Cinci, dice ti chiamo, dice quello, gli ha dato una specie di casa in campagna con maialini, cose del genere, e io e tu, c'è un bel coso, c'è capito in TV, un bel di porcheria la verità. Quindi, cioè fare business in TV è molto molto facile con le cose degli altri, capito? Beh, senza ombra di dubbio, ma c'è anche la persona che ci sta, dai. Se tu non vuoi non lo fai. Ci sono quelle che riscolgo, si mettono in mossa per fare la via e l'altro guadagna nel frattempo. Ma è così, ma si sa che bene è quello che è sempre stato, aiuta. Fare il filmato, cioè quando mai tu prendi un fidanzato, ti fai fare un filmato e hai capito, quindi poi da lì passi a come si chiama, ne fai l'altro con Corona, fate il sud e basta, non discorso è quello lì, non ne forse proprio niente, anche se escono i filmati per dire porno, quindi ne affronti. Ho fatto la progrediva, basta, la soluzione di cinta mi mettono una parte, cosa mi affutti a fatto che ci piace il ragazzo, per lui c'è cazzo di sé, tutti quelli sono stati prima di me, pensa, capito, Fare così, il ragazzo è una sputtanata, gli ha fatto il filmino, è la sputtanata, capito? Un'altra poi lì ha fatto successo perché tutti sono andati a vederlo questo filmino qua, ma non è che l'ha fatto, non penso perlomeno, sennò proprio è a livelli a terra a terra. No, no, parlo quello di adesso, sto parlando io, non quello molto, non quello di prima li conoscevano in Italia, sto parlando quello di adesso, quel ballerino, quindi si vedrà, è più di un filmato, te lo dico io, fatto da lei, te lo dico io. Questo è solamente il primo, magari va fatta un'altra quindicina. Lo sai che prima di andare in TV devi mollare, il discorso è sempre quello. Quindi usciranno altre cose e vedrai che divorzeranno, te lo dico io, non ci mancherà molto. Penso un anno, due anni divorzeranno, perché non è possibile, capito? Che fai a coltivare una persona del genere? Boh. Vabbè, c'è gente che si sposa anche le prostitute, ma io so di gente che si è sposato prostitute proprio. Sì, ma già, c'è il problema, sì, l'avanti sempre questo, di quelle. Ma non capire però quelle prostitute che si sono sposate, quella che c'è vendeva fiori di viaggio ma di Pascoli per dire, quella ha fatto per il fatto di 15 anni. Eppure è sposata con un cesarese e se no si è innamorata di quella e l'ha accettato e basta, sia la madre sia il resto, poi una bella ragazza, e si è portata una bella ragazza, tanto c'è Mercedes, se guida, c'è la patria tutto e sta bene, capito? No, ognuno fa la sua scelta, non è più come prima scandaloso che tutti i figliavi di presidio la prostituta, tutti si è pigliato la cosa, quando così non va bene, adesso i sassesi purtroppo fanno queste fesserie qui perché la moglie non era, e tu lo sai più di me, dopo sposato non te ne dà più, e quindi automaticamente Guarda, ogni 4 di chilo, per dire, 1200 euro di stipendio, 250 euro per andare a fare con il mio padre, per dire che è la terza, alla moglie, hai capito? È pieno, sa, è proprio è pieno, ma c'è un po' di gente che fa fare questa ragazza brasiliana, per dire, spagnola, quello che è, conseguo luxe, che fanno la testa. Anche per 200 euro, per dire. Purtroppo è così. L'invito è quello. Una volta sposato, trovo una volta a mille e sette avanti. Capito? Invece è un maschio, già lo sai come è fatto. Se c'è due o tre volte a settimana, va, ci va. Non è fatto nulla di spendere soldi. Secondo te, dal mio punto di vista, non le prenderanno mai. Eppure c'è la fila, sto dicendo, c'è un bel gente, c'è via anche, che c'è andata, e si è sposata con questa persona qua. Ha mandato la moglie per pigliarsi una di quelle, perché gli andava ogni settimana, anzi non ogni settimana, ogni due o tre giorni. E in più c'è anche la fregatura e si porta il figlio in Italia, capito? Come è successo per due persone che sono divorziate e che sono sposate con gente di altri paesi e si sono proprio pigliati in casa, magari anche figli maggiorenne, quello che è. Beh, quando le dice io ho mal di testa, non te l'ho oggi, non era e non vedo dove va, eppure l'amano lo stesso, hai capito, il discorso è quello lì, perché è successo davanti a me un giorno. Che mi dicevo un vicino turno che lui aveva fatto lavoro io nella villetta, si è sposato con una polacca e il capo dice no, guarda, c'ho mal di testa, me ne vado in camera mia, ma no, non te lo do, gli diceva, c'ho mal di testa. Eppure si è sposata perché glielo dava quando batteva il night, per dire. Il bizzarro è quello. Si è tenuto anche il figlio addirittura, perché lui c'aveva un figlio con un altro e si era caricato. Sì, vabbè, quello tanta gente lo fa, è una cosa buona. Se vuoi bene la donna devi voler bene anche il figlio che ha. Andave. Io vi saluto, che me ne vado a letto. Ci sentiamo, buonanotte a tutti, ciao Franco, ciao Alice, ci sono tutti gli ascoltatori. Oggi c'erano discorsi un po' scottanti. Che discorso te ce l'hai, ci vedi? Ma purtroppo è aggiornato questo discorso, non è che sia scottante. Non ci puoi fare niente. Io ci sono 12 anni con Simona, quando lo chiedo me lo dà, il discorso è quello, però andare per dire con tutte quelle ragazze che ho conosciuto, la verità mi tengo quello che ho, non mi tengo la cacca degli altri, il discorso è quello, purtroppo salsa di la maggior parte di quelli che hanno, sono sposati e che non gli danno, preferisco andare così, il discorso è quello lì. Io, meno male, sono fortunato e sono diverso, magari, non lo so, mi stanno sbagliando, quello che puoi dire tu, però io quando voglio ce l'ho, e sto bene, ci sono 12 anni, ho fidanzato, non sono neanche sposato già, però è così, si sta bene così. E vabbè, sono tutte che non accettano, molto aperta con la mentalità. Sì, perché lei non è santa, il discorso è quello. Lei è di Bolzano e quindi le cose sono diversamente diverse, capito? Diversa mentalità anche. Purtroppo qua sta lì, ragionano come i somali. Quando si è fidanzato, quando vuoi te la do? Una volta si è sposato, ti chiudo il rubinetto. E quindi la gente, io guarda che ho visto, ma ti giuro, è vero, perché se ti porto una persona che c'era la fila dei ragazzini di 18-19 anni, la fila va via, te lo sto dicendo. E sono gente sposata di 20-25 anni. Allora la fila, tutti i ragazzi, tutta gente sposata da poco, perché la moglie una volta sposata non ne andava più. Questi sono. Tutto è così. Ma meno male, sono tutti uguali. Avanti fra, io sono andato a letto, dai, buonanotte. Via. E anch'io me ne vado, mi sto dormendo adesso. Va bene, dai, ciao Gianni, dai, ci sentiamo. E ciao anche Alessio, e me ne vado anch'io a letto, me ne vado. Mi ero un bendino per Gandrino. Sentiamo, ciao, avanti lì. E a ciao fra, ci sentiamo, saluto di belli, buon positivo, buonanotte e buon tutto per le prossime. Ciao Cagiano, buonanotte anche a te, mi raccomando, tromba sempre, mi avrà sempre di più, e sarei molto meglio per la salute io a quella. Come tutti, d'altronde, anche a me. Quando si fa quello che si deve fare da fidanzati, si va molto molto più d'accordo, anche se si diventa più gentili. È tipo cioccolato, più dolce, diciamo. Dopo invece quando non è più, per magari le cose come stanno, che non c'è lavoro, non c'è niente, e quindi cambiano le cose, si assappano, si vengono le crisi di cose. Meglio dimenticare tutto e fregarsene a un certo punto, anche se purtroppo dobbiamo sapere probabilmente che le cose sono cambiate, non c'è più lo stipendio di prima, non c'è più un lavoro di prima e quindi bisogna cambiare tutto, anche se ti viene la crisi politica, diciamo. Vabbè, ci sentiamo domani, fatemi bene tutti e due, alla prossima.